è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Un po' di vino in più che male fa, voglio dimenticare la mia età. Capisco che ho perduto e resto qua a bere fino a quando finirà. Gli amici miei mi scansano e non so se fanno bene o male, io però. Nel giorno in cui si consuma forse la fine del federalismo voluto dalla Lega, forse, perché il governo potrebbe mettere di nuovo tutto in discussione, caro Parenzo, perché in Italia non c'è mai non c'è mai la parola fine su niente. Di domani non c'è certezza. Iniziamo in modo assolutamente inusuale, con un mitico confronto quasi generazionale, direi. Sì. Tra Rita Bernardini, Partito Democratico però radicale, e Bruno Vespa, ieri sera a Porta a Porta. Ebbene sì. Meraviglia. Rita Bernardini cerca di far capire al mitico Bruneo Vespa, come lo chiama Dago Spia, che farsi una canna alla fine è come farsi un bicchiere di vino. Io so che tu sei di questo partito, diciamo. Sono assolutamente d'accordo, basta che tutto deve essere fatto con intelligenza, con garbo. Con misura, beh, il garbo che c'entra con le canne. Con garbo, anche con eleganza. Beh, eleganza, no? Eso vuol dire. Con eleganza, perdere. Con misura. Comunque, con tutte le cose. Comunque tutte le cose. Tu lo immagini, Vespa, no? Lì la Bernardini dice una cosa di questo tipo, dice: ma come, scusi, ma davvero lei dice che io la sera posso farmi una canna, cioè posso fumare della marijuana o posso fumare dell'erba o qualsiasi altra cosa ed è come se bevessi un bicchiere di vino? E lei, sì, veramente sì, anche lì c'era un Giovanardi assolutamente stupefatto di fronte a una cosa di questo tipo. Sentiamo. Ma lei mi sta dicendo che io invece posso sostituire il mio bicchiere di vino con una canna e sto meglio? Se fuma solamente una canna, probabilmente sì. Un po' di vino in più che male fa, voglio dimenticare la mia età. Ancora la Bernardini, nella misura adeguata, una canna al giorno va benissimo. Lei mi dice che se io ogni giorno prendo delle dosi di marijuana sto bene come prendendo un bicchiere di vino? Se le prende nella misura adeguata. Nella misura adeguata? Nella misura adeguata! Perché lei come fa? Io se ci sono persone che se bevono un bicchiere di vino già si sentono. Ma non per me. Una discussione di altissimo livello, direi. Ieri sera a Porta Pelle, non so nemmeno quale fosse il tema della puntata in realtà. Insomma. Comunque, ci si è concentrati a un certo punto sulla canna e sul bicchiere di vino. No, tanto per dire che una delle proposte che era stata fatta a Berlusconi nei giorni scorsi, sì, non so da chi, ma in realtà lo so, ma non ve lo dico, era di mettere addirittura un radicale alla giustizia o come sottosegretario o come ministro, sì, e per cercare di allargare la maggioranza. Abbiamo parlato anche dell'ipotesi Pannella, eccetera, eccetera. E questa persona aveva fatto anche il nome di Rita Bernardini. Ora ve lo immaginate Rita Bernardini in un governo di centrodestra come sottosegretario alla giustizia o addirittura ministro alla giustizia, cosa naturalmente impensabile. La quale sostiene una cosa per me assolutamente normale, ma che certo in un governo di centrodestra dove c'è Giovanardi e altri ancora stona parecchio. La vedo, no? La vedo molto dura, molto dura. Vado a spiegare poi al Vaticano. Mica solo il Vaticano, sai, ormai non conta poco il Vaticano. Ma cosa ti ha detto Sgarbi ieri? Sei più, tra virgolette, puttana tu, Parenzo, rispetto alle cosiddette prostitute o escort dell'inchiesta di Berlusconi? È stato un attacco dialettico fortissimo, ancora ne pago le conseguenze su Facebook, mi scrivono per commentare questo attacco furioso, furibondo, senti, dialettico. Senti. Non ci sono prostitute, le conosco perfettamente, sei peggio tu, la vincitrice del grande fratello, della pupa e secchione, che si chiama Cipriani, è meglio di te, sei più puttana tu di lei. Finito di dimenticare. E la tesi di Sgarbi, ripetuta più volte anche ieri sera in un mitico intervento alla Zanzara, è che Ruby non è una prostituta, è solo una furba. Ma Ruby è una ragazza, come dice Ostellino, che ha pensato furbescamente di trarre vantaggio dalla sua bellezza. Farà quello che vuole, ma se ha trovato non un cliente, ma uno che la mantiene, che lei ha chiamato la Caritas, non è una puttana, è una furba, come tutte le donne che sposano uomini ricchi o che trovano qualcuno. La Gregoraggi che cos'è? Sta con Briatore perché è bello? Allora, stava con Ponti perché era bello? Dovete smetterla! Capisco che ho perduto e resto qua a bere fino a quando finirà. Gli amici miei mi scansano e non so. Mubarak, in questi giorni va di moda la citazione di Mubarak, una cosa per me incomprensibile, cioè, cioè paragoni assurdi tra Mubarak e Berlusconi. Ora si può dire tutto il male possibile di Berlusconi, per carità, criticarlo in tutti i modi, ma davvero vogliamo criticare, va bene nella dialettica, i paragoni, le cose temporali, anzi forse anche una certa maschera facciale, no? Sì, c'è una somiglianza. Però insomma, adesso, voglio dire, ma di che parliamo? Egitto, no. Italia, non diciamo cose assurde. Eppure Mubarak torna nei discorsi di questi giorni. Per esempio, in Parlamento, dove si sta discutendo proprio in questi minuti la questione dell'autorizzazione a procedere, là, della perquisizione, eccetera, eccetera, e oggi, stasera, probabilmente ci sarà il voto, un deputato dell'Italia dei Valori, Palomba, che dice: Ruby porta scalogna a Mubarak. Beh, battutone, l'abbiamo già ascoltato e letto più volte nei vari blog in questi giorni. Qualche problema con l'Egitto l'abbiamo avuto, anche se adesso lo zio di Ruby, Mubarak, ha qualche problema lui. Forse dipende anche da questo, magari porta pure scarogna questo fatto, no? E non poteva mancare Di Pietro, naturalmente, che dice: mandare a casa il Rais Nostrano. Sì, perché cittadini italiani, dovete rendervi conto che solo voi ora potete mandare a casa questo Rais Nostrano. Solo voi ora potete salvare il paese e la democrazia prima che diventi lo zimbello del mondo. Che aveva detto ieri aveva detto che aveva 60 anni e dunque doveva fare il nonno, diciamo, no? Doveva essere più morigerato, doveva calmarsi, e invece il Rais Nostrano è scatenato. Ma non può cambiare Di Pietro, se Di Pietro cambiasse sarebbe la fine dell'Italia dei Valori, carità, cioè, sarebbe la fine anche per noi, può darsi, per tutti, per carità. Cioè, poi ieri... Berlusconi che non racconta più le barzellette, Berlusconi che non fa più le feste, non è Berlusconi. No, ma infatti sarebbe una tragedia per tutti noi. E Bocchino, Repubblica TV, Berlusconi come Mubarak, ma non è la prima volta, perché Bocchino ci ha abituato, oltre ad essere uno straordinario battutista e cuciniere, anche a queste iperboli, anche a queste frasi roboanti, è uno splendido, meraviglioso oratore. Cerca di apparire uomo delle istituzioni, insomma, un po' come quando Mubarak dice: non mi ricandido, nomino un vice premier, certo, comunque diciamo nomino il nuovo governo, sciolgo il Parlamento, cioè sono tutti segnali per andare incontro ad un'opinione pubblica ormai stanca della situazione, nella speranza che si freni il crollo della credibilità. Certo. Gli amici miei mi scansano e non so se fanno bene o male. Vabbè, andiamo alla questione del federalismo, ma la prendiamo perché alla gente, diciamo la verità, non gliene frega assolutamente nulla. Tu pensi che per strada, nei bar, questo è il nostro agorà, è la nostra piazza, è il nostro bar quotidiano, tu pensi che la gente per strada in questo momento si stia domandando? Beh, nella commissione bicamerale per il federalismo, il voto sul federalismo municipale, che era un voto di proposta, attenzione, cioè non è un voto, qui in Italia i tempi sono lunghissimi per qualsiasi decisione, è andato 15-15, dunque dal punto di vista tecnico è stato tutto bocciato, e dunque adesso non si sa che cosa succede. È chiaro, una cosa, si chiedono questo o no? La gente ha cose più importanti, ma no, ma non è interessata a questa vicenda, sono tutti tecnicismi, burocrazia. Sono interessati a sapere se le tasse, questo federalismo le aumenterà o meno. Sì, ma questa è l'unica domanda. Ma questo non si... anche questa è una polemica, una polemica ridicola. No, è l'unica domanda che uno si fa, perché la gente alla fine si guarda in tasca e dice: ma insomma, questo sistema istituzionale che stanno costruendo funziona o non funziona? Pagheremo più? più o meno tasse. Gli amministratori locali sì, sono d'accordo, più o meno ma questo fine, questo all'osso sì, è il tema, d'accordo, non altro. Va bene, ma anche sul fatto delle tasse si pagheranno più o meno tasse, non è una cosa sì, ma non è una cosa che discende direttamente da come vengono scritte le norme, dipende da tante altre no? Ma no, dipende da tante altre cose, da quanto un comune è virtuoso, da quanto non è virtuoso, da quanto risparmia, da quanto spende, dipende da una serie infinita di fattori. Ma comunque, a parte questo, io ti volevo fare ascoltare quello che è uscito fuori da Radio Padania, credo nell'imminenza o subito dopo il voto sul federalismo. Senti alcuni, senti alcuni ascoltatori. Questo è interessante. Sono incavolata moltissimo. Proprio guardi, io dico che a questo punto l'unica cosa è la secessione. Adesso è ora di andare alle elezioni. Io credo che l'unica alternativa sia quella di rottamare questo governo prima che il governo rottami la Lega. Secondo me ormai Berlusconi, volente o nolente, è il blocco del federalismo. Ecco, è arrivato il momento di togliere la spina. A questo punto basta, non se ne può più. Coraggio, Bossi, stacca, stacca. Padania liberissima. Berlusconi, game over. Voglio dimenticare la mia età. Capisco. Però i segnali che vengono da Bossi per il momento sono in direzione opposta a quelli che vengono dalla base leghista, che in realtà la pensava così anche 15 giorni fa, non è che la pensassi in maniera diversa. Sì, però capisce che qui i tempi si allungano. Ma è normale, con l'instabilità politica ci potrebbe rimettere il mitico federalismo della Lega. Ma sono stufi anche di questo modo di governare di Berlusca, sai, i leghisti. Boh, secondo me di Berlusca, di quello che fa in camera da letto Berlusconi, ai leghisti non gliene frega nulla, assolutamente no, nulla. Però, vede, anche perché, come ci raccontò, ci raccontò il mitico Facco qualche settimana fa qui alla Zanzara, da questo punto di vista anche i leghisti hanno qualcosa da farsi perdonare, dal sì, punto di vista delle frequentazioni giro femminili. Sì, ecco, ma non vanno in giro troppo a sbandierare, non fanno le cose più come dire, educatamente, più sobrie, meno con bandiere, cose. Beh, insomma, 30 adesso persone, cose. Vabbè, quello che c'è, quella è una specialità berlusconiana. Ma andiamo a sentire il traffico, il nostro meraviglioso traffico, caro. Traffico. Anche perché sono in viaggio, tra l'altro, sì, questo è importante. Dove sei? Sul torpedone persiana? Verso sono il Gran Ducato? Verso la, sì, verso il Gran Ducato di Toscana. Quindi sì, il traffico è importante. Una delle frasi del giorno che hai riconosciuto di articolo 31 su Maria. Certo, Maria, che cosa significa? Dillo tu, Maria. Dillo tu. Maria, Maria. Cos'è, la marijuana? Beh, penso di sì. Perché ne so, io non sono un cultore di queste cose. Tu un cultore di queste cose? No, che cultore di cose, nel senso che conosco queste canzoni, sono un giovane del resto, no? Ah, vivo in per questo mondo. Per questo, vabbè, ho capito, certo, ho capito. Certo. Bernardini, farsi una canna è come fare un bersi un bicchiere di vino davanti a un esterefatto Bruno Vespa. Magari proverà Vespa, che ne sai. Ma non mi pare uno scandalo questo. No, no, però sai, di fronte mi a Vespa una frase clamorosa. Sì, in Italia anche queste frasi fanno scandalo ancora. Questo è incredibile, però è così. Non è che ha detto una cosa, no? Non è che ha detto che l'andrangheta. Esatto, Vespa è dell'andrangheta, no? Ha detto farsi un bicchiere di vino, vale, cosa. Sentiamo. Ma lei mi sta dicendo che io invece posso sostituire il mio bicchiere di vino con una canna e sto meglio? Praticamente se fuma solamente una canna, probabilmente sì. Anche da quei tempi ero poco più di un bebè, sono corso a casa mia con la Maria a farmi un tè. Va bene, va bene. 800 24 00 24. Daniele da Udine, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parento. Io volevo proprio intervenire riguardo alla diatriba Vespa Bernardini sulla canna al giorno. Allora, io ho 35 anni e io la mia canna al giorno me la faccio più o meno da 20 anni. Io nel frattempo mi sono diplomato col massimo dei voti, laureato in ingegneria col massimo dei voti. Scusi, cos'è che faceva lei, scusi? O che fa ancora? E in che senso che faccio ancora? E la canna al giorno, no? Lei si fa una canna al giorno, allora? Più o meno, e volevo dire che sono talmente d'accordo che non fa male, lo faccio da 20 anni e in questi 20 anni non è che vivo nei centri sociali e diciamo e sono un individuo che vive ai margini della società, come dicevo appunto. Vabbè, lo spiega anche lei a Vespa allora, eh? Sì, infatti cerco di il fatto è questo, che di questo questa battaglia qui pro legalizzazione delle droghe leggere. Sì, adesso non cominciamo a parlare della battaglia sulla legalizzazione delle droghe leggere, perché non ho nessuna intenzione di fare una discussione su una cosa del genere. Allora, diciamo, non sulla legalizzazione, ma diciamo sulla non demonizzazione. Allora, sì, sì, allora? Diciamo, la vanno sempre a fare... diciamo con le manifestazioni dei centri sociali, i rastoni, diciamo si può dire individui effettivamente che vivono in margine della società, mentre in realtà è una grossissima maggioranza silenziosa di professionisti, impiegati, operai, insomma di gente che... Ma i suoi datori di lavoro lo sanno che lei si fa una canna al giorno? Beh, ultimamente è un po' calato perché sono diventato papà, quindi è un po' più complicata la cosa. Perché no? È più complicato? Scusi, non è che diventare papà impedisca di farci una canna al giorno? Abbia pazienza, io conosco, è pieno di padri che io conosco che si fanno 2-3 canne al giorno addirittura. Sì, sì, lo so, diciamo che me la faccio quando lui va a dormire, ma non sempre va a dormire tanto, no? Ah, scusi un attimo, lei ha questa usanza qui, aspetta che suo figlio vada a dormire, dopodiché va in salone e si fa una bella canna, diciamo la verità. Ma insomma, perché finché sveglia bisogna corrergli dietro, diciamo che appena fatto una canna uno ha voglia di distendersi sul divano, vedersi un filmetto, sentirsi un po' di musica e così via, no? Non di sgambettare dietro al bebè. Benissimo, senta Daniele, noi raccogliamo questo suo parere e poi lo inviamo alla redazione di Bruno Vespa, va bene? Sì, esatto, sì. Mi sembra che sia utile la cosa, perché lei fa l'ingegnere, no? Che mestiere fa lei? Ingegnere? Ingegnere. Sì. Ingegnere. Dunque, anche gli ingegneri si fanno una canna al giorno, giusto? Beh, adesso una al giorno mi pare un po' troppo. Comunque. Beh, lui ha detto che se ne è fatta una al giorno e anche adesso non disdegna. Quante se ne fa in media a settimana lei, Daniele, scusi? Ma, ripeto, forse fino a un paio d'anni fa erano 7. Come, scusi? Ah, 7 a settimana, cioè una al giorno? A settimana, sì sì, adesso saranno 3, diciamo, dai. 3, vai, dai, su, così. facciamo. Stasera? Alle 22. Diciamo che nella sostanza non vero, canna e via. Stasera, ripeto, dipende da cosa... Dipende, no? Certo, mica è una regola. Sono ancora tornato a casa dal lavoro, quindi vediamo un po' di cose da fare. Vabbè, io faccio una premessa, io non mi sono mai fatto una canna in vita mia, adesso la voglio dire, sennò sembra che facciamo l'elogio della... No, mi è capitato, a me non mi parlo a te sì, e lo so benissimo anche davanti a me una volta, però sì, mi è successo, ma non è che una al giorno, per carità, mi sarà capitato, farò, ma neanche ogni anno una o due, ma non è una roba così, cioè, una o due all'anno, Tom, voglio dire, ma non è, il problema è che non diventi una roba seriale, no? È questo che se lo fa ogni giorno, dire, vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, anche se uno se ne fa una al giorno, qual è il problema? Certo. Sarebbe curioso sapere se la Bernardini, da cui nasce questa discussione, che è un deputato radicale eletto nella lista del Partito Democratico, se ne fa una al giorno, magari potremmo chiedergli, domani, dopodomani. Sì, questo potrebbe essere interessante. Massimo dalla provincia di Ancona, per il paese, no? Ma guarda che è importante anche per il paese in realtà. Massimo, provincia di Ancona, grazie Daniele di questa splendida testimonianza che invieremo alla redazione di Bruno Vespa. Per il signor Vespa, che magari cambia abitudine, invece di farsi un bicchiere di vino a sera, potrebbe cominciare dubito, a farsi una gara. Anch'io dubito, però l'ho detto. Massimo, provincia di Ancona. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera Parenzo, gli ascoltatori. Dica. Buonasera. Vi volevo porre una domanda. Allora, io guido un camion, faccio l'autista. Secondo le ultime leggi che ha fatto il signor Giovanardi con quella faccia da inquisitore, io non posso neanche mettere l'aceto nell'insalata, perché altrimenti rischio il posto di lavoro. Allora lui mi dovrebbe spiegare come mai quando le Iene... Adesso non esageri, Massimo. No, guardi, non sto esagerando. Noi abbiamo il tasso alcolemico 0, io non posso neanche mettere l'aceto nell'insalata, ve lo dico e lei si informi. Allora gli volevo dire al signor, al dottor lì, adesso mi ha fatto per il filo, a Giovanardi, come mai quando le Iene hanno fatto la proposta di fare il test antidroga e hanno fatto quel servizio, si sono astenuti tutti? Loro che devono fare le leggi possono tirare la cocaina e fare i festini dentro le macchine. No, guardi, scusi, Massimo, adesso non cadiamo in queste considerazioni assolutamente demagogiche. Considerazioni un po' così alla garibaldina. Caro Massimo, Giovanardi, se proprio lei vuole criticare qualcuno, se la deve prendere con qualcun altro, perché in realtà Giovanardi li voleva fare come i test antidroga ai politici. Allora, per cui, siccome lui è il primo che si doveva opporre a quando hanno rifiutato, quando hanno fatto il servizio alle Iene. Che Massimo, scusi un attimo, a me non me ne frega niente il servizio alle Iene. Lei che mestiere fa? Io guido un camion. Guida un camion, benissimo. Qual è la sua protesta? Perché non può bere un bicchiere di birra, un bicchiere di vino? Qual è il problema? No, io sono il primo a dire che se io faccio un lavoro che ho una responsabilità sulla strada, allora, basta, non devo bere e non devo... Però, allora, noi per mettere la cetolina in salata rischiamo il posto di lavoro. Ma che cetolina in salata? Guardi, adesso informi, dottor Cruciani, che è così. Non è vabbè, d'accordo, lei dice che le regole per chi guida, le regole sono troppo ferre. Secondo me non è così. Sono giuste. E allora basta, sono giuste, basta. Allora perché un parlamentare... Ma è diverso, lei ha una responsabilità maggiore, Massimo. Uno che fa le leggi non c'è la... Ma no, ma questo è un vecchio discorso che non c'entra niente, su. Cioè, chi guida e chi fa le leggi, che stupidaggine. Non si possono mettere... Non si possono mettere sullo stesso piano, Massimo. Se lei ci ragiona un secondo, se ne rende conto benissimo, Massimo. Altrimenti lo dovremmo fare per milioni di categorie, questo controllo. Certo. Scusi, chi guida un camion o chi guida un autobus ha una responsabilità sulla vita delle persone molto più alta. E fino a qua siamo pienamente d'accordo. E allora basta. Ma chi fa una legge ha una responsabilità. Sì, d'accordo, tutti hanno una responsabilità, anche io che parlo. Abbia pazienza, tutti, almeno per una piccolissima parte, abbiamo una responsabilità. Va bene, dove andiamo? Dove andiamo? Marco da Modena, buonasera. Signor Marco? Signor Marco? Marcolino? Non ci risponde, eh? Non ci risponde, vabbè, pazienza. Gianni da Grosseto. Sì, buonasera. Dica. Volevo, intanto, sono una persona normale, io non mi sono fatto la canna, che non fammela mai in tutta la mia vita. E vabbè, già. È una scelta, non voglio nemmeno stare a criticare, perché ovviamente ognuno la può pensare come crede. Quella, la mia telefonata era soprattutto dovuta a un fatto, e mi sono reso conto, io se si chiedevo dall'inizio... Ah, lei vuole parlare della zanzara, un discorso abbastanza noioso, però noi glielo facciamo fare tranquillamente dopo il giornale radio. 800 24 00 24, caro Parenzo, ci sentiamo alle 19.15, avremo alle 19.30 un ospite molto importante sulla vicenda del federalismo, poi te lo dico, dopo, dopo il GR. Eccoci di nuovo, caro Parenzo, in viaggio verso il Granducato di Siena. Che punto sei? Proprio così. Ma siamo in autostrada, in questo simpatico torpedone con 10-12 persone, piuttosto anziane, per la verità. Beh, d'altra parte è un torpedone che va verso Siena la sera, il giovedì sera, verso da Roma a Siena. Insomma, non è che ti puoi immaginare di incontrare dei manager, ecco. Insomma, certo. No, c'è gente per bene che lavora, working class. Sì, lavora, insomma. Non può spaccare, lavora. Certo, lavorato, tornano. Ah, dici perché è giovedì, certo. Cioè, tornano, vanno verso Siena, vanno a vedere Anno Zero a casa, poi... Ma vi rendete conto, c'è il signor Parenzo che è un giornalista anche abbastanza conosciuto, volto televisivo, sì, adesso anche radiofonico, eccetera, alla eccetera, sette, alla 7, eccetera, radio, il giovedì sera, invece di... prendere, che ne so, un'auto, non ha la patente, certo, invece di farsi mentale accompagnare da qualcuno, prendere un treno, non so, fare qualcosa, prende un assurdo torpedone. Ma che assurdo, da Roma, €20, €20, sì, ma al di là del 20 euro è importante che quello, è importante, e va a Siena in torpedone. Io la trovo una cosa pazzesca, una cosa chicchissimo, cosa chicchissima peraltro. Va bene, 800 24 00 24, questa è la zanzara. Andiamo a sentire i mirabolanti titoli del TG3. Sentiamo come il telegiornale è diretto, mi sembra, dalla signora Bianca Berlinguer. Molto bene, se non vado errato, titola, riassume la giornata. Il federalismo non passa in bicamerale, la maggioranza non è una bocciatura, andiamo avanti lo stesso. Bossi, elezioni? Non penso. Fini, il no è chiaro, situazione senza precedenti. Bersani, se Berlusconi fa un passo indietro si può tornare a discutere. Alla Camera il voto sulla perquisizione chiesta dai PM di Milano, Gianni Letta al Copasir, nessuna falla nella sicurezza del Premier. Mubarak non cede, scatena le sue milizie, i manifestanti resistono, l'esercito senza ordini, al Cairo e caccia al giornalista. L'inchiesta sullo scandalo Ruby, per il procuratore di Milano le immagini finora visionate sono irrilevanti per le indagini. Strage del 93, il pentito Spatuzza chiede perdono alla città di Firenze, i parenti delle vittime si rassegni, non perdoneremo. Maria Schneider è morta a Parigi a 58 anni, legò la sua celebrità al film Ultimo Tango, Bertolucci avrei voluto chiederle scusa. Ci segnala anche la frase mitica di Obama quando risponde a un giornalista sulla marijuana: sì, ho inalato, ti ricordi? La domanda se avesse fumato e anche aspirato marijuana. E qui facciamo risentire per l'ennesima volta lo stupore di Vespa di fronte a una considerazione che a noi magari persone di mondo, così gente che vive quotidianamente, non è che campiamo in una palla di vetro, insomma, no? In una campana di vetro, insomma, ci sembrano considerazioni abbastanza scontate, normali, quelle di Rita Bernardini. Ma lei mi sta dicendo che io invece posso sostituire il mio bicchiere di vino con una canna e sto meglio? Praticamente se fuma solamente una canna, probabilmente sì. Maria, ricordo quando l'ho incontrata al parco 7 anni or sono, vestita in verde con quel suo profumo buono, stava con un mio amico che mi ha chiesto me la tieni, devo andare all'aeroporto e lei non va d'accordo tanto con i cani, non ci sono problemi fidati di me. Lei mi dice che se io ogni giorno prendo delle dosi di marijuana sto bene come prendendo un bicchiere di vino? Se le prende nella misura adeguata. Nella misura adeguata? Nella misura adeguata, perché lei come fa? Io se ci sono persone che se bevono un bicchiere di vino già si sente. Se hai sentito a un certo punto, qui siamo al delirio ed era la voce, la vocina di Giovanardi e anche del ministro Meloni. Ah, sì, il ministro Meloni. Bene, 800 24 00 24. Cosa ti faccio sentire? Cosa vi faccio sentire? Dove andiamo? Traffico! No, non c'è il traffico, c'è già stato il traffico, c'è già stato il traffico. C'è già stato. Dove andiamo? Porta! E come porta? Qualche bocchino, che dici? Bocchino del giorno? Bocchino del giorno ci vuole. Bocchino del giorno ci vuole, eh. Yeah. Se ti lasci anche piano, si avvicina. Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Vicino con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Allora, le ministre del PDL messe a tacere. Purtroppo c'è un assordante silenzio da parte delle ministre, perché dato che Berlusconi ha chiamato tutti, come ha fatto travalicare i loro compiti istituzionali a Schifani e Frattini, così ha fatto travalicare la loro sensibilità femminile alle ministre, facendole o tacere o mandandole in televisione a sostenere probabilmente il contrario di quello che pensano. Diciamo. Allora, bisogna stare attenti a questa frase di Bocchino, che è formidabile. Ha fatto travalicare, cos'è? Ha fatto travalicare il loro essere donna, non so, cioè Berlusconi avrebbe convinto le ministre del PDL ad andare in televisione a sostenere una tesi in cui quelle non credono, non so se ti rendi conto di questa frase bocchiniana, oltremodo eccessivo, una cosa pazzesca. Quelle donne hanno difeso il premier come delle leonesse, credono che non ci sia stato nessun abuso del corpo della donna. E poi non è che se uno non firma questi ridicoli appelli alla dignità femminile, ridicoli appelli alla libertà femminile, sia un mostro. Questi appelli sono semplicemente penosi. Su questo sono pericolosamente d'accordo con te. Vado oltre le cose che scrive, che ha già scritto in maniera magnifica Giampiero Mughini, credo ieri, su il grandissimo maestro Giampiero Mughini, ieri su Libero. La questione della dignità femminile non è che si può fermare e si può considerare in rapporto a quello che avviene a Residence Olgettina o quello che avviene a casa di Berlusconi. È una cosa che fa spavento, semplicemente una cosa quasi fondamentalista. Quell'appello è un appello fondamentalista. L'appello per la dignità delle donne è un appello fondamentalista. Beh, adesso fondamentalista non fondamentalista, so, però... assolutamente fondamentalista. Sì, è una giusta provocazione per riflettere. Ma cioè... quale provocazione? Magari fosse una provocazione, no, non c'è nemmeno, però, non c'è nemmeno però, lo spirito vedi, della provocazione, tu capito? Tu ti arrabbi tutte le volte che io lo dico. È il Berlusconi Caligola che dobbiamo combattere. Ma che Caligola? Finiscila, finiscila con queste, ma finiscila con queste definizioni ridicole. Il massaggiatore del Milan in regione, quello è il problema. Ma quello è il problema, ma che c'entra Caligola? Cosa questa... perché Caligola come sai ma sei come Di Pietro, ha ragione Parenti, ha ragione no, Sgarbi, sei peggio di Di Pietro tu, perché Di Pietro dà tutte queste definizioni. Ma lascia Di Pietro sul trattore. Sei peggio di Di Pietro, ce l'abbiamo questa cosa di Sgarbi, Parenzo sei peggio di Di Pietro, ce l'abbiamo. È la mia definizione, che c'è da Di Pietro. Ha ragione Sgarbi, sei peggio di Di Pietro, ha detto ieri. Sei peggio di Di Pietro, peggio di Di Pietro. Urla, quando lo si mette in contraddizione quello urla. Ah, stai zitto, cretino, cretino, capra. Ha detto anche una cosa su tua moglie, sentiamo. Sei cornuto anche, ma come si permette? Senti, senti. Ma come se la Rubi dice che non c'è stata e Berlusconi che non c'è stato, quella è la verità. Se tu, se tu vai a letto con la moglie di Parenzo, vai a letto con la moglie di Parenzo, di no, e lei dice di no, lui è cornuto, tranquillo. Ma gli tiro un pollo in faccia, la carità. No, dire no, è la verità. Allora, c'è un ascoltatore. Ha dato una notizia di reato, forse. C'è uno strepitoso, c'è uno strepitoso ascoltatore che dice: Cruciani, pensa se tua figlia fosse andata ad Arcole. Che è il ragionamento più ridicolo che si possa fare, cioè più penoso e ridicolo che si possa fare. Una cosa assurda, assurda. Non si può ragionare in questo cioè, modo. Queste persone qua vorrebbero eliminare dalla, come se vorrebbero eliminare dalla faccia della terra i rapporti tra le persone potenti e le donne dello spettacolo, certo. Li vorrebbero eliminare, cioè vorrebbero un mondo ideale in cui questi rapporti che ci sono sempre stati, anche ai tempi di Isabella Ferrari, ricordiamo anche ai tempi sì. di Isabella Ferrari che è una di quelle che ha fatto questa, vorrebbero eliminare una cosa semplice che per carità a me non me ne frega niente perché non ho mai frequentato questo mondo, vorrebbero eliminare quello che da sempre c'è stato, cioè il rapporto tra gli uomini potenti e le donne dello spettacolo. Ma il tema politico non è questo, questo è ma sì, ma il tema politico è un altro, d'accordo, siete bravissimi a posizionare il cannone sul bersaglio quello meno evidente. È chiaro che questo non è, per me le feste non sono un problema, io lo guardo che ho detto tante volte, il problema è quando ma ho c'è capito, un reato. Ma qui non stiamo parlando di questo, stiamo parlando dell'appello sulla dignità delle donne, non del reato, del non reato, infatti, stiamo parlando dell'appello per la dignità delle donne. Ma quello c'ha una parte positiva che è quella sulla questione morale che investe politicamente Berlusconi e l'altra sì, sul corpo delle donne che è una cagata pazzesca. Vabbè, ma nemmeno quel primo esiste in realtà. No, va bene, comunque parte. C'è qualche cosa da dire sulla votazione della Camera adesso che ha negato, no? Che ha approvato in realtà il passaggio al Tribunale dei Ministri di queste carte, no? Cioè ha negato l'autorizzazione per i magistrati. Sapeva, si sapeva assolutamente. Che... Misiti, il mitico Misiti, Aurelio Misiti, che all'inizio è stato eletto con l'Italia dei Valori, poi è passato a Lombardo, ha votato con la maggioranza. Mentre Barbareschi si è astenuto, l'unico in tutta l'aula, e Berlusconi era addirittura assente, cioè su una cosa che riguardava lo stesso Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio era assente e ricordiamo che il Presidente del Consiglio può assolutamente votare. Va bene, intanto non erano presenti in aula nemmeno Paolo Guzzanti, Latteri, un altro dell'MPA che è in odore di maggioranza. Abbiamo la borsa 800 24 00 24. Poi torniamo sempre con Gianni da Grosseto, Salvatore da Provincia di Treviso, Marco da Padova e altri ancora. Giulio Ascoli Piceno. Eccoci qui, 19.33 800 24 00 24. Allora, Parenzo, abbiamo detto che Barbareschi si è astenuto nel voto di qualche minuto fa alla Camera. In realtà, senti cosa aveva detto questo in un'intervista. Puzza, questo un po' puzza. Un po' puzza, anche perché Futura Libertà, l'indicazione di Futura Libertà era di votare per l'autorizzazione. Adesso diciamo così, anche se il voto poi tecnicamente era il no. Barbareschi cosa aveva detto al Fatto Quotidiano oggi? Senta, onorevole, a poche ore dal voto come si pronuncerà? Sono nel FLI, quindi come il FLI. Compatto col FLI? Certo. Come compatto col FLI? Barbareschi, compatto col FLI, si è astenuto. Ma ci credi che è vera questa roba o no? Parenzo? È è morto. E poi ha detto un'altra cosa, ha detto che lui fa, vuole fare politica e non spettacolo. Per cui domenica io farò un'intervista con un paio di persone e racconterò altre cose. Poi lunedì nel Trasformista qualcuno vedrà e ci sarà un messaggio molto preciso per quello che accade nel Parlamento. Perché io come onorevole ho voglia di fare politica, non spettacolo. E invece mi trovo in un Parlamento dove si fa più spettacolo e si fa pochissima politica. Beh, lo intrecci abilmente. Ma io l'ho fatta atto, come provocazione, non l'ho fatto in tre anni. C'è un intreccio fortissimo. L'ho fatto adesso come per dimostrare, anche per dimostrare una cosa che è comico, una cosa che io ho scritto 10 anni fa, che devo dire, viva Dio, finalmente, grazie a Rai 3 esce, perché è stata la censura. Bene, Parenzo, non so se hai sentito la frase su Barbareschi. Cioè, oggi ha detto, voto compatto col FLI. Ma siamo al funambulismo proprio. Io la voglio fare risentire questa roba perché è clamoroso. E oggi pochi istanti prima, del voto della Camera, a un certo punto Barbareschi dice: senta onorevole, a poche ore dal voto come si pronuncerà? Sono nel FLI, quindi come il FLI. Compatto col FLI? Certo. Si è astenuto. Si è astenuto un secondo prima. Ha sbagliato a premere il bottone, dai. Va bene, 800-24-00-24, Gianni da Grosseto. Cioè, si può cambiare idea, ma buonasera. Riprendo un po' il discorso e stavo interrotto subito. Sì, dica. Ecco, io volevo fare due considerazioni. Una, stasera sono perfettamente d'accordo con lei per quanto riguarda la dignità delle donne, che non c'è bisogno di andare a fare le piazzate, che poi hanno un risultato, penso, più negativo per chi le fa che per chi l'ha pensate. L'altra considerazione volevo fare sul dottor Parenzo, che ultimamente, no, diciamo da sempre, da quando è intervenuto nella sua trasmissione, che praticamente tutte le sere, è una persona schierata, no? Schierata sulla sinistra, ma non lo nasconde nemmeno. Questo secondo la sua idea? No, ma questo lo percepiscono tutti, io penso. Ma lo percepisce lei? Se lei pensa... Ma che ha fatto un sondaggio lei, scusi? No, ma comunque, ora, non credo di essere talmente stupido a non capire certe sfumature. No, ma ho capito, ma parli per sé, non attribuisca la sua considerazione a tutto il mondo, me. Non so chi. Ecco. Mi riferisco sul governo, cioè, sull'opposizione, sulla maggioranza, su tutto, cioè non è che ho i paraocchi davanti. No, ma io mi riferisco a quello che ho detto, è perché in molte circostanze ho notato, sì, per esempio anche l'altra sera, che una sua collega, perciò essendo come lei giornalista del giorno, sì, del giornale, certo, del giornale, sì. Praticamente gli ha dato addosso, mi sono sentito in difficoltà io per questa. Ho espresso il mio parere. Un attimo. Mi sono sentito in difficoltà perché in tutti i modi ha cercato di far capire che quello che hanno fatto i giudici e che quello che hanno fatto le forze dell'ordine mandate dai giudici era perfettamente a norma, regolare, per una cosa che io ritengo che potevano benissimo salvaguardare la sua dignità anche non facendola spogliare. Da questo punto di vista io penso che un collega come lei doveva essere solidale e d'accordo con la giornalista. Gianni, ho capito. Qui il problema è che in questa trasmissione non vige la dottrina coreana. E sto parlando della Corea del Nord, dell'unanimismo finto. Non so quale altro artificio dei tempi andati. Qui ognuno dice quello che vuole, non c'è nessuna, certo, solidarietà di categoria, nessuna ridicolaggine di questo tipo. Per cui Parenzo, ma anche io, abbiamo semplicemente fatto delle osservazioni per dire: beh, sì, insomma, le perquisizioni sono fatte in teoria nelle norme di legge. Poi ci poniamo qualche problema: era necessaria o non era necessaria la perquisizione personale, ma non è che uno invita una persona così e poi sta muto, che poverina ha subito la perquisizione, che cattivi questi magistrati. No, semplicemente facciamo delle domande, riceviamo delle risposte, incalziamo, qualche volta sì, qualche volta no. No, ma la sensazione era quella che in certe circostanze, perlomeno in alcuni punti, poteva essere anche considerato, cioè io non penso che fa spogliare una persona per vedere se nasconde qualcosa alle 9 del mattino sia una persona, una cosa normale. Ho capito, ma questo qua va benissimo, qual è il rimprovero a Parenzo? Non ho capito, Gianni. Il rimprovero a Parenzo è soltanto una cosa, che quando si tratta, sì, io parlo da un presupposto, non sono politico, non sono né di destra. Ma noi non ce ne frega niente che lei è di sinistra o di destra. No, non sono né di destra né di sinistra, io parlo soltanto da un presupposto. Vabbè, allora? Che non ci sono, non c'è mai una volta che il dottor Parenzo, sì, veda le cose nel modo diciamo obiettivo. Vabbè, dal punto di vista, se non dal punto di vista di dare addosso al governo. Ho capito, va bene, comunque il punto di vista obiettivo non esiste, perché è il punto di vista di Parenzo, il punto di vista di Parenzo è appunto, per appunto. Di sinistra, vabbè, per lei è un uomo di sinistra, va benissimo Gianni, non c'è problema. 800 24 00 24, intanto Barbareschi precisa, c'è stato un contatto, io ho votato un contatto credo nei terminali della Camera, nella votazione io ho votato compatto insieme a Futura Libertà, i voti sono stati così, 299 non 298 come risulta dai tabulati, cioè Barbareschi contro i tabulati addirittura. Assicura in questo modo ai cronisti di aver votato sul caso Rubi in linea con quanto indicato dal gruppo dei Finiani, se volete verificate con l'ufficio stenografico della Camera, ma io risulto astenuto solo per un contatto che c'è stato, un errore tecnico, ho votato con Futura Libertà. Sì, d'accordo, è possibile, ma chissà perché è capitato a Barbareschi, però c'è il contatto, cioè per altre c'è la sfiga che ti persegue. No, è curioso però, no, c'è il contatto alla Camera e non riguarda 600 deputati, ma riguarda Barbareschi. Vabbè, ma noi capita il caso fino alle volte. Solo che è indimostrabile, capito, una cosa di questo tipo. Come si fa a dimostrare? Qualcuno dovrebbe dire "Ho visto Barbareschi che ha spinto sul pulsante del no". Come quando ti vedono passeggiare con una donna, ti fotografano e tu vai poi a spiegare a tua moglie che quella lì era una passante, non un'amica, no? Incredibile. Dice, no, però abbiamo passato insieme la strada. E dice, no, tu le stavi parlando. No, stavo chiedendole un'informazione sul traffico. Vai tu poi a spiegarci la foto e cosa fai? È terribile, no, ma è così, è terribile. Certo. Diego da Udine, buonasera. Oh, carissimo. Come sta? Molto bene, grazie. Ma chi è, Diego Pasini? Sì. Ah, beh, ho capito. Diego Volpe Pasini. Perché anche Volpe, capito? Non è solo Pasini, anche Volpe. Volpe. Caro Diego, dici pure. No, due cose, prima di tutto Barbareschi dovrebbe spiegare che cosa ha detto a Berlusconi ad Arcore, più che non è in grado di... Beh, hanno parlato delle foto professionali fatte dagli spioni con macchinari da 25.000 euro. Sì, ci credono tutti, sì. No, potrebbe averglielo detto direttamente Berlusconi però, Ci credono tutti, sì. Si è andato lì a parlare forse... Secondo lei di che cosa ha parlato? Delle fiction, dei contratti televisivi? Della sua carriera professionale, visto che in Rai non può andare perché se è parlamentare non lo pagano. E quindi lì la strada è chiusa. Ah, cioè lei dice che la questione è molto più veniale, insomma. Ma lei dice perché lo sa o perché era presente? Scusi Pasini, lei lo dice perché era presente o perché lo sa? Perché lei nei giorni scorsi mi ha detto che è stato anche ad Arcole. Ecco. Sì, assolutamente. Ma perché è stata ad Arcole lei? Scusi, signor Diego Volpe Pasini. Vabbè che va un sacco di gente ad Arcole, questo pure è vero, però. No, e devo dire la verità che ci va un sacco di gente per bene ad Arcole. No, ma io non dico, non mica detto che ci vanno i delinquenti, ho detto semplicemente che anche lei è andato. In che veste, scusi, signor Diego Volpe Pasini? Sono andato ad Arcole accompagnando Vittorio Sgarbi perché seguo per lui alcune cose, sì, e quando Vittorio incontra il presidente molto spesso ci sono anch'io, quasi sempre. Perfetto. Tutti, quindi, tranne noi tutti siamo stati a lungo ad Arcole, sì, e siamo andati via prima che arrivasse Barbareschi. Ah, prima? Per cui lei non sa di cosa hanno parlato Barbareschi e Berlusconi? No, si figuri, a parte che Barbareschi, dopo quello che ha detto e dopo come si comporta, a me fa schifo solo guardarlo, nel senso che proprio addirittura. Se non esageriamo, insomma. No, mi fa schifo perché dopo quello che ha detto in tutte le televisioni su Berlusconi, che poi vada lui ad Arcole, ho sempre sostenuto Berlusconi. È quello che abbiamo detto a Barbareschi l'altro giorno. Voi siete più gentili, più educati, io sono meno No, per carità, solo che a me non mi fa schifo, a lei fa schifo, a me no, cioè io sono molto cinico in queste cose. No, lei è più maturo dal punto di vista generale, io sono più fazioso, sono più passionale. Ah, vabbè, io sono tifoso, come l'ho detto l'altra volta, io faccio il tifo, sono tifoso e come tale ho sentimenti da tifoso e quindi Barbareschi in questo momento mi fa schifo. Poi se vota a favore di Berlusconi diventerà come una brava persona tornata all'ovile e sarà bravissimo, per il momento ancora mi fa schifo, poi magari passerà. Ma scusi, il suo metro di giudizio è se uno torna con Berlusconi è bravissimo, altrimenti le fa schifo, no? È curiosa questa cosa. Assolutamente, ma io lo chiaro, io sono tifoso. No, ma lei può anche dichiararlo, d'accordo, però non è che una persona le può fare schifo quando si allontana da Berlusconi, invece certo, quando si riavvicina diventa un santo. Capisce? È stato eletto con Berlusconi. Ah, in questo senso, andato... diciamo, è uno schifo politico. Sì, ma certo, mica personalmente, si figuri, non esiste. Sempre dal punto di vista politico, personalmente. Beh, insomma, però siccome lei le cose sembra saperle, dalle cose che le hanno detto, Barbereschi è andato a chiedere quattrini, insomma, questa è la sostanza. No, ma quattrini è una cosa esagerata. Vabbè, ma quattrini, insomma, ci siamo intesi. La cosa esagerata, però certamente, siccome la legge prevede che non possa lavorare in Rai, o meglio, possa lavorare gratuitamente in Ma Rai, questo perché gliel'hanno detto o è una sua idea, una sua intuizione? A parte quello che si dice non si può dire, però insomma questo diciamo che è la mia intuizione, va bene, per cui vale niente. Ma la sua intuizione è un conto, fonti certe, interne è più importante. No, la mia è un'intuizione. Scusi diciamo un attimo, Volpe Pasini, ci aspetti un secondo perché abbiamo un ospite importante in collegamento da Verona. Prima 30 secondi di pubblicità. Collegamento da Verona, il sindaco Flavio Tosi, buonasera. Sì, buonasera a voi. Come andiamo? Come andiamo? E chi lo sa? Lei come sta dopo il voto di oggi sul federalismo? Come si sente? Come ieri, no, nel senso che... No, questo è interessante, guarda, non è cambiato niente. No, perché comunque ha fatto pareggio, quindi no, sì, era immaginabile che andasse a finire così. Questo non era il voto decisivo, perché non è il voto della bicamerale però, che decide, non è un bel segnale, vediamo se... Però lei dice non conta nulla poi alla fine dei giochi. No, allora da un punto di vista pratico non conta nulla perché non sposta nulla. Sì. Da un punto di vista di quello che invece sono le prospettive, se le cose, se le riforme si dovesse portare avanti guerreggiando fra la maggioranza e la minoranza, non si fa un bel servizio al paese, insomma, ecco. Staccar la spina, sindaco, staccar la spina qui. O no? Se la cosa continua così, diventa una prospettiva sempre più concreta. Ma scusi un attimo, sindaco, però la questione è questa: cosa deve succedere ancora perché la Lega stacchi la spina e dica vabbè, questo governo non può più andare avanti perché non può fare la riforma, andiamo a votare? Nel cosa... momento in cui ci sarà la certezza che le riforme non passano, ci saranno anche dei voti d'aula, quindi ci saremo in fretta a vedere se le cose vanno o non. Cioè la commissione alla fine non contano poco, quello che conta poi quando la ciccia arriva in aula, questo è il punto. Esatto, e lì dopo si vede, lì se ci sono i numeri bene, se non ci saranno i numeri si va a casa. Però scusi, il ministro Maroni, lei non è lontano dalla posizione del ministro Maroni, comunque è una persona che... Sarebbe un ministro del mio no, vabbè, ma anche è un amico, ma è anche un ministro del anche all'interno della Lega, diciamo, quello volevo dire. Sì. Pochi giorni fa ha detto, se giovedì questa roba del federalismo non passa, si va a votare. No, allora, da quel che so io, questa è la frase, faccio l'interpretatore autentico adesso del ministro Maroni. Ho capito, troppo lui, comodo. Lui non ha detto giovedì, lui ha detto se non passa il federalismo, e il federalismo non è che passava oggi c'era un voto importante. Ma non è che il voto ha parlato di giovedì, comunque, vabbè, insomma, no. Ma non ha mica detto nel mese dell'anno, però. Ha sempre una scappatoia. Con quando lo freghi? Una sola volta sono riuscito un po' a pizzicarlo sulla vicenda di Morgan. Là sono riuscito a instillare nel sindaco Tosi un qualche dubbio e alla fine l'abbiamo un po' spuntata. Però su queste cose qua, come fai a batterlo? È difficile. Qui bisogna avere una capacità dialettica micidiale. Io, per carità, insomma, sono democristianizzato. A proposito di democristianizzato, questa è l'accusa che le fanno alcuni leghisti, appunto. Sui 150 anni, anche lo stesso Maroni pare che se la sia presa con lei perché mette troppa enfasi nelle celebrazioni del 150enario dell'Italia. Ha ricordato rumor, addirittura Marco Travaglio se l'è presa con lei, un leghista che ricorda rumor. Ma davvero mi si è democristianizzato, signor Tosi? Ma io guardi, non da ieri e da ben prima del 150esimo, io sempre ho detto che c'è una DC degli ultimi anni della DC che dopo si è sfasciata, che rappresenta il peggio probabilmente di quello che potrebbe essere un partito politico nel modo di agire, e c'è una DC per decenni, quella da Don Sturzo in poi, che ha costruito questo paese e che ha contribuito alla sua ricchezza e al suo sviluppo, e ci sono tanti esponenti di quella DC che sono persone che hanno lavorato onestamente, seriamente, e vanno ricordate per esempio Mariano Rumor. No, vabbè, ma ribadire il fatto che Tosi abbia stima nei confronti di un vecchio dirigente democristiano, di un dirigente democristiano del passato, non è che sia uno scandalo. Infatti non capisco la sorpresa per una cosa di questo tipo. Senti, le volevo chiedere, Tosi, una cosa. No, perché era uomo della Prima Repubblica. E vabbè, d'accordo, ma non è che la Prima Repubblica, non è che i leghisti hanno considerato la Prima Repubblica sempre un abominio. Cioè, no, però giustamente consideravano il magna magna, ma Tosi, che è intelligente, ha capito che ha celebrato un uomo delle sue terre e che ha portato qualcosa al suo territorio, credo sia questo la chiave. Sì, certo, certo. Tosi, sento una cosa, ma a quelli di Radio Padania che dicono Tosi, noi non vogliamo celebrare niente, ce ne sono tanti, noi li abbiamo ascoltati, perché noi ascoltiamo fedelmente anche Radio Padania, per farci un po' un'idea, basta con questa storia dei 150 anni, cioè, come risponde lei? Ovviamente siamo in un paese democratico e quindi se uno privatamente, personalmente non vuole festeggiare, ci mancherebbe, uno privatamente può anche girare con l'uto al braccio, cioè, non è che sia il problema è che io sono un sindaco di una grande città, siamo la 11ª città d'Italia come dimensioni, e sarebbe anomalo che una città come Verona non festeggia 650 anni dell'unità del paese. Dunque state zitti. Io come sindaco credo di avere un ruolo istituzionale, lo devo rispettare, per rispetto di tutti i cittadini veronesi, perché io sono il sindaco sicuramente grazie a chi mi ha votato, ma dopo che sono stato votato sono il sindaco di tutti i veronesi. Per cui a quelli di Radio Padania e ad altri che strepitano, Tosi dice state zitti. Bisogna state distinguere zitti tra quello che è la posizione della persona singola da quella che è la posizione di un'istituzione che io rappresento. Dunque non strepitate troppo, insomma. Dica con noi, viva l'Italia! Viva l'Italia, viva l'Italia! Adesso va bene che volete mettermi di fuoco come con Morgan, però no, ma lo dica, viva l'Italia! Viva l'Italia, con noi, viva l'Italia federale! Viva l'Italia federale, però viva l'Italia l'ha detto, viva l'Italia. Viva l'Italia federale. Viva l'Italia, viva l'Italia lo può dire, ma non è mica una cosa strana dire viva l'Italia. Ma a me piace l'Italia federale. L'Italia non federale non mi piace. Cioè, a lei quest'Italia non piace. E la a me non piace un'Italia centralista come quella di adesso. Vabbè, insomma, viva l'Italia, non ci siamo riusciti. Non abbiamo... Ci ha fregato con sto federale. Cioè, con sto federale dopo. Viva l'Italia federale. Viva l'Italia. Ci ha fottuto. Senta, ma in ordine, lei cosa si sente prima? Italiano, veneto? Io mi sento sia veronese che padano che italiano. Non c'è un prima o un dopo. C'è tutto insieme. Non c'è un prima o un dopo, io mi sento tutte e quattro queste cose. Ma non ce la facciamo a fregarlo, come mai? Parezzo? La secessione che dice sempre Borghezio arriva, sta arrivando, dov'è la secessione? Beh, se non passa il federalismo fiscale, ma non perché la vuole la Lega o perché la decide il Parlamento, se non passa il federalismo fiscale non so cosa succede in Italia. Dunque è possibile, cioè dopo c'è la secessione? Che vuol dire? No, non è che possa la secessione, abbiamo visto cosa è successo in Grecia o cosa sta succedendo in Egitto e in altri paesi. Beh, mica perché non c'è per una situazione economica difficile. Però, Prego? No, dico, l'Egitto non è che esplode perché non c'è il federalismo, non credo. No, ma non perché non c'è il federalismo, perché nel momento in cui l'economia fa fatica ad andare avanti, la gente si incazza e quando le misure diventano un po' troppo pesanti, se non ci sono riforme serie, quello che succede è quello che è successo in Grecia. Io non vorrei che in Italia succedesse quello che è successo in Grecia e magari con conseguenze peggiori. Però lei ha detto, almeno no, la domanda nostra era... Io non sono uno che viene qua e auspica la guerra civile. Io spero che non ci siano casini se non passa il federalismo fiscale. Io me però se senza il federalismo fiscale potrebbero succedere casini. Sì, ma perché cioè, l'economia... Casini, lei dice, una rivolta popolare del nord, cose di questo tipo? No, non è una rivolta popolare del nord, è un sistema economico che ormai è vicino al collasso, che se non si prendono delle misure serie collassa, e quando l'economia va in malora la gente si incazza, dopo non è mica facile tenerla. Per cui se non c'è il federalismo fiscale si riapre per quello che riguarda la Lega la partita della secessione, secondo lei si deve riaprire? No, ma non è una questione che noi dopo diciamo allora vogliamo la secessione, appunto. È questione che se il Presidente della Repubblica, che non è ascrivibile alla Lega, se la Marcegaglia e quant'altri dicono, perché non hanno capito, che sono indispensabili le riforme nel nostro paese perché altrimenti il paese va allo sfascio, è perché anche loro paventano quello che può succedere dopo. Sì, no, ma era l'idea della Lega, la prospettiva che ha la Lega se non passa questo federalismo, qual è? Cioè ci si può alleare con chiunque dopo, si è sciolti dal vincolo con Berlusconi, qual è il punto? Beh, diciamo che l'alleanza con Berlusconi nasce su quel presupposto. E se non si arriva a quel risultato, a quel punto Bossi deciderà cosa fare. Lì è un consiglio, no? Ognuno per sé, Dio per tutti, dice il proverbio. Ognuno per sé, Dio per tutti, mi sembra una cosa, abbastanza chiara. Dunque la cosa, diciamo, si potrebbe risolvere anche in qualche settimana da questo punto di vista, no? Cioè, che bene, ovvio, nel senso che non è che si va avanti, anche perché non è che si può andare avanti due anni in questa situazione. Cioè, le elezioni oggi, stasera, le elezioni sono più vicine, secondo lei? No, secondo me il voto di oggi più di tanto l'ha spostato, perché era abbastanza ovvio che finisse così. Il problema, ripeto, è quando si va in aula, si vede. Senta, però anche Maroni si era presa con lei per questa sua smania di festeggiare, così è stata descritta, ma in realtà poi non è. E qua io faccio non sono l'interprete autentico, ma dico una cosa di cui sono personalmente certo, perché la mattina che è uscito quell'articolo, credo sia il Corriere, se non erro. Alle 10 e qualche minuto ci siamo sentiti col ministro, col quale ci siamo fatti una bella risata assieme rispetto a quello che riportava il giornale. Dunque, quindi siamo messi a ridere insieme, siamo amici. Non è che eravamo amici, siamo amici, lo siamo sempre stati, e il Corriere ci ha aggiunto un po' del suo, ecco, succede. Senta, ma è vero che sua sorella non si è alzata all'inno di Mameli, invece lei sì? Assolutamente vero. Ma com'è che c'è questa differenza di posizione? Perché lei considera come lei sindaco, sì, però non ce la mette in questo modo, ce la pensa diversamente da lei per quello che riguarda i 150 anni. Mia sorella è un consigliere comunale, come gli altri consiglieri della Lega, e rappresentano quindi il partito. Io rappresento tutti i cittadini veronesi. Sì, però una volta anche lei nel suo ufficio mise in polemica con il capo dello Stato. Poi c'è stata la grande riconciliazione. Quindi lei sta facendo un percorso, questo è innegabile, no? Perché lei comunque rimane un uomo della Lega, ma che sta facendo un percorso un po' diverso, questo è un dato, no? Vabbè, non è mica Borghezio Tosi, certo. Questo è oggettivo. Mi pare che i riconoscimenti al presidente Napolitano sono venuti da tanti altri, mica sono da sottoscritto all'interno della Lega. Se un presidente della Repubblica si dimostra serio, corretto, imparziale e onesto intellettualmente, va riconosciuto. Ripeto, uno che aveva detto esattamente il contrario, non è che sia uno che cambia idea tutti i giorni, però l'ho cambiata volentieri. Sì, su Napolitano e su Morgan l'ha cambiata, però. credo che rischia di mischiare il sacro e il profano. Però su Napolitano e su Morgan è vero, sono due cose su cui ha cambiato idea, ma non è mica un delitto. Lei ha il sacro e Morgan. Ma io, tra l'altro, io con Morgan non ho nulla a che spartire. C'è stato un caso quella cosa lì. Amico, una persona che vedo solo dall'esterno, e mi è dispiaciuto quello che è successo. Sono stato molto contento che il sindaco Tosi abbia capito che non era una questione così grave. Guarda, parlando con Morgan, l'impressione è che l'avessero un po' fregato, parlando con lui, sinceramente. In quell'intervista? Sì, secondo me sì. L'hanno un po' fregato, questo è interessante. Morgan è stato fregato in quell'intervista. Senta, Tosi, un'ultimissima cosa. Ma perché gli ho parlato e quindi ho avuto modo di confrontarmi con lui subito. No, certo. Niente, me la sono scordata, c'era una cosa che devo chiedere, me la sono scordata. Sarà per la prossima volta. No, sì, le fa piacere che il Chievo sia così in alto in classifica? Se proprio domande una più carogna dell'altra. Perché lì lo so. Ho parlato con il signor Fontana al Parlamento Europeo, mi ha raccontato qualcosa il signor Fontana. Da buon democristiano posso rispondere a questo, siccome ieri sera il Chievo ha battuto il Napoli, io sono tifoso dell'Ellas, e fra l'Ellas e il Napoli non è che ci sia mai stato un gran buon sangue, e quindi bene che abbia vinto il Chievo. Cioè, solo perché ha battuto il Napoli? Nel senso che ha battuto una squadra che all'interno di quelle nella casistica delle squadre poco simpatiche alla tifoseria alla quale appartengo, il Napoli spicca abbastanza in alto, anche la Juve per quello. Devo dire una cosa, allora lei non dice che è contento per il Chievo così in alto in classifica a 30 punti? Non è contento, dire la verità, non gliene frega niente. Del tifo, per carità, il fatto che il Chievo vada bene e vinca siamo è un bene per la città, è un bene per la città, sì, il Chievo è una bella realtà gestita bene, un esempio probabilmente a denti stretti, a denti stretti quanto soffre nel dire queste cose, soprattutto non solo a denti stretti ma con invidia, perché io sono tifoso di una grande squadra e siamo due categorie più sotto, invidioso del Chievo, bellissimo. A dopo. Grazie a voi di nuovo. Grazie. Sono le 20 in punto, caro Parenzo. Anche i politici, come hai potuto ascoltare, restano alla fine dei grandi tifosi, eh? Fantastico, fantastico. Ma dove sei qua che ti sento un rimbombo pazzesco, no, dietro? Sono adesso in macchina perché da Siena devo raggiungere la ridente località di dove io sono, in questa campagna. Ma sei toscana. Con tua moglie in macchina? No, no, mia moglie è a casa, come tutte le donne, a fare da mangiare. Ma come tutte le donne, c'è gente che lavora in questo momento, sei impazzita. Anche qui dal vetro c'è Valeria Bernardi che sta lavorando e certo non sta a casa a fare da mangiare. A mangiare, a fare la calzetta, quello, no? Quello se che c'è sempre Diego Volpe Pasini in collegamento. Sempre la Volpe! Perché lo chiami la Volpe? Lo ironizzi? Perché io lo chiamo da sempre Diego virgola Volpe Pasini. Va bene, in collegamento da Udine con noi, che abbiamo? TG1, Minzolini? Volpe Pasini, lo apprezza lei Minzolini? Ma non mi piace in maniera terribile, però insomma... in maniera terribile, Sì, non mi piacciono, quando interviene lui direttamente al telegiornale non mi piace moltissimo, però insomma è un telegiornale governativo, il TG1 è sempre stato così, a prescindere da chi governa, è il TG1 di sempre. Insomma. E ieri c'è stata una polemica, secondo me ridicola, caro Parenzo, per questa intervista a Berlusconi. No, ma non dire così. No, ma no. Allora, le interviste, no, questo, intanto i titoli TG1 di oggi, poi ti spiego perché la polemica che è assolutamente ridicolo. Sono curioso di ascoltarti. Prima sentiamo i titoli. Sì, perché? Caso Ruby, la Camera rimanda gli atti alla Procura di Milano per incompetenza, prova superata per la maggioranza. Federalismo, pareggio in commissione sul fisco municipale, opposizione e stop alla riforma, ma per la maggioranza si va avanti, si riunisce il Consiglio dei Ministri. Egitto, scontri e violenze, caccia ai giornalisti stranieri, una ventina arrestati dall'esercito e il vice di Mubarak, il caos, complotto straniero. Elisa è morta per assideramento, la procura di Perugia scioglie i dubbi sul decesso della studentessa, resta il mistero delle sue ultime ore. Nel degrado, il cimitero dei Mille a Genova, tra le lapidi, rovi, erbacce e marmi rotti, nemmeno un euro per le celebrazioni dell'Unità d'Italia. L'attrice francese Maria Schneider è morta a soli 58 anni, indimenticabile protagonista insieme a Marlon Brando di Ultimo Tango a Parigi, il film Scandalo di Bernardo Bertolucci che negli anni 70 la trasformò in un simbolo di trasgressione. Eccoci qui, allora la questione è molto semplice, caro Parenzo. Le interviste, allora tu mi devi trovare tra le interviste del TG1, nella storia del TG1, recente magari, adesso non so nel passato, un'intervista a un leader politico, all'interno del TG1, all'interno del TG1, che sia un'intervista incalzante. Cioè me ne devi trovare una. No, ma che scelta, scusa, un conto è incalzante. Un conto è, Presidente, l'economia va bene, il suo governo ha fatto molto, ora cosa intende di fare di più? Ma sono così le interviste del TG1? Come no? Ma vale a guardare! Ma lascia perdere. Ma non è così. Sì, ma io non sto dicendo che sia il massimo dell'intervista, sto dicendo semplicemente che tra l'intervista a questo Renzulli, non so come si chiama, che non è Ronzulli, è Renzulli. Ronzulli è l'europarlamentare del PDL, non c'entra nulla. Ah, l'eurodeputato, è vero, sì. Ronzulli è l'europarlamentare PDL. Ah, Ronzulli è una donna. Livia Ronzulli è la deputata. No, Licia Ronzulli è la deputata. È vero, sì, Licia Ronzulli è la deputata. Questo qui è Ronzulli. Renzulli. Ma perché storpi nomi, cambi nomi? No, perché non me lo ricordo. Facciamo chiarezza. Il giornalista che ha intervistato Berlusconi si chiama l'ex capo cronaca dell'economia, si chiama Renzulli. Guarda che sei assurdo. Renzulli. Mentre la deputata del PDL, eurodeputata, che è venuta una volta alla Zanzara da noi tempo fa, sì, si chiama onorevole Licia Ronzulli, esatto, adesso me lo ricordo. Esatto. Invece adesso come si chiama questa giornalista? Cerca di ricordarti questa Renzulli. Cosa. Renzulli, ma di nome come fa? Ah no, questo non lo so. Livio, no. No, no, Licio Renzulli. Non lo so, non mi ricordo, non è che... No, non credo. Perché tu sai i nomi di tutti, scusa. No, Giubilei, no, ma non so nemmeno io. Come si chiama di nome Giubilei, vice direttore di Rai? Giuliano vabbè. Giubilei. Come si chiama Capranica di nome? Antonio, questo è facile, questo è facile. Volpe Pasini, come si chiama questo giornalista del TG1 che ha fatto un'intervista? Credo che si chiami Michele Rendabelle, sei andato a cercarlo su internet nel frattempo. Vabbè, da Wikipedia lì davanti forse cercavi, dai, siamo veloci. Google, forse cercavi. Allora, no, mandiamo qualche passaggio di questa intervista, sì, qualche domanda, bravo, che a te sembra ridicola, sentiamo. Bravo. Presidente, negli ultimi 2 anni l'Italia ha tenuto alto l'argine della stabilità dei conti, come hanno riconosciuto l'Europa e il Fondo Monetario Internazionale. Ora è il momento di tornare a crescere. In che modo? Sono domande normali, sì, sono certo. Domande che vengono fatte per dare la risposta che vuole l'interlocutore. Sì, ma quali interviste del TG1 sono diverse? Dimmene una diversa. Ma c'è delle regole, su. Ma non dai. È così, ma tu ti stai sbagliando. Noi possiamo contestare questo modo di fare le interviste che sono inutili. Allora, semplicemente uno potrebbe fare una dichiarazione, punto e basta. Sì. Le interviste, francamente, fatte così sono totalmente inutili. Cioè, non c'è bisogno di mandare un giornalista lì, eccetera, a fare l'intervista. Questo, esatto. Su questo sono d'accordo con te. Totalmente inutile fare un'intervista. Allora, è meglio raccogliere le dichiarazioni, anche più dignitoso, se vogliamo. Così no? Era un po' troppo, però. Un po' Volpe troppo. Pasini, che ne pensa lei, signor Volpe Pasini? No, ma vedi, Parenzo, come sempre, purtroppo, in questi ultimi giorni. Prende una posizione, quello che riguarda Berlusconi va sempre male. Il TG1 è vero. Il TG1 è il primo TG della rete della Rai 1, della Rai, ed è sempre stato governativo. Se ci fosse stato Prodi, Veltroni, Franceschini, Berlusconi, chiunque presidente del Consiglio, tra l'altro in un momento di grande difficoltà, gli avrebbe fatto un'intervista di questo tipo, che è un termine tecnico. Però gliel'avrebbe fatta per tirarlo un po' su di morale, per dargli un po' di... Scusi, ma signor Volpe... Ma è un telegiornale, tira su di morale. Diego, sei Pasini ma non una volpe, scusami. Ma che ma dici? Ma giuro che è così. Aggressiva deve essere con chiunque altro. La Sette sarà aggressiva che deve cercare di fare... Ma non è questione di aggressiva, è questione di fare domande. Non occorre essere travaglio. No, però sei d'accordo, signor Volpe Pasini, assistente di Vittorio Sgarbi, nonché frequentatore di casa di Berlusconi? No. Beh, così, sei stato a casa di Berlusconi, sei, sì, per carità, non sei l'unico, perché c'è un via vai incredibile. Però sei stato, adesso ci racconterai anche cosa hai visto dentro casa di Berlusconi, certo. Perché non è che te chiami e poi ti puoi così sei esentato da questa cosa qui. Signor Pasini, riconoscerà anche lei, nonostante il fatto che lei è comunque filo governativo Berlusconi e quello che è inutile mandare un giornalista a fare queste interviste? No, ma io trovo totalmente inutile che Berlusconi si spersonalizzi, perché Berlusconi vince e ha vinto essendo se stesso, confrontandosi con chiunque. È Berlusconi che non ne ha bisogno, non del TG1. È un errore. Cioè, scusi, non ho capito. È una tesi singolare. Cioè, qual è la tesi, scusi, Volpe Pasini? Signor Volpe? Che Berlusconi ha tutti gli argomenti per andare a difendere, a sostenere sia la parte buona, positiva di quello che vuole fare per l'economia, sia diciamo la parte meno bella, che sono gli attacchi che ha subito, che sta subendo, e dovrebbe farlo come ha sempre fatto, andando in mezzo alla gente, in questo caso anche agli avversari, e dialogando, rispondendo alle domande, anche le più cattive, perché ha dialettica, ha conoscenza, ha serenità e soprattutto ha gli argomenti e ha la coscienza a posto. E quindi deve farlo, secondo me dovrebbe farlo. Comunque ha sbagliato il giornalista, certo, sto dicendo questo la Volpe. Cioè, che sta dicendo la Volpe? La Volpe dice che Berlusconi non deve aver paura del confronto e delle domande difficili, perché sa rispondere, questo dice la Volpe. Ma è che invece le volpi del TG1 sono più realisti del re, capito? Questo è il punto. Va bene, i titoli della 7 oppure la pubblicità? Perché durano 50 minuti i titoli della 7, per cui... Io faccio in tempo a fare questi 7 km nella mia casa. Pubblicità, poi cerca di prendere un altro telefonino che si comincia a sentire malissimo, come al solito quando sei nel Granducato di Toscana. Ci sentiamo dopo. Eccoci. Oh, finalmente si sente bene. Sì. Siamo qui dopo l'intervento di Flavio Tosi, sindaco di Verona. Abbiamo sempre in collegamento specialissimo da Udine il nostro amico Diego Volpe Pasini, detto da Parenzo La Volpe, assistente di Vittorio Sgarbi. Assistente ex, allora che c'è andato a fare insieme a Sgarbi? Sei un amico, gli do una mano quando serve. Ma una dama che per andare ad Arcole? Che mano gli dà per andare ad Arcole? Scusi, Volpe Pasini. Lo sostengo moralmente perché ogni tanto ne ha bisogno. Cioè lei, siccome Sgarbi va ad Arcole, vi mettete d'accordo, vengo pure io. In realtà, dica la verità, era curioso di andare ad Arcole? No, io ho la fortuna di conoscere il presidente Berlusconi da tanto tempo. Da quanto tempo, scusi? Dal 93, fine 93, primi 94. Cioè, anche lei ha il numero di telefono, come ieri ci ha detto la signora Barbara Guerra? Non ha il telefonino. Non ho il suo numero di telefono, perché non è, normalmente non c'è bisogno. Per chiamare, per sentire o per parlare con Berlusconi si parla a qualcun altro. Io ho il piacere ogni tanto di incontrarlo e di scambiare due parole, insomma, questo è... Ma lei, scusi, Berlusconi la riconosce? Caro, certo. Pasini, oppure no? Certo. Oppure lei glielo deve ricordare, si ricorda, sono quello, come si fa? No, certo mi riconosce. La riconosce. Era molto. Ho viaggiato col suo aereo, nel suo aereo più volte. Addirittura. Ma cos'è che dice quando la vede? Cara Volpi, come sei? No, è veramente una splendida persona. Adesso tu devo pigliarlo in giro perché, come al solito, sei invidioso. Ma non sono invidioso di niente. Ma sei invidioso, dai. Scusi, hai un altro che è sempre quasi innamorato. È stato un uomo di grande successo, un grande editore di questo paese. Ma è un uomo, no? È stato, mica è morto. È stato come editore, sto parlando di quello. Come editore è stato un grande editore che ha fatto molto per questo, per il sistema di media. Ma dici delle robe vecchie però, Parenzo. Ancora questa storia che è stato un grande editore. Saranno vecchie, ma io passerò alla storia più che come editore che non come politico. Vabbè, per quello lo vedremo, ancora non è morto. Comunque passerà la storia. Scusi, signor Volpe, ma per cui lei che conosce Berlusconi nel 93, questa storia della sala del Bunga Bunga, delle orge, le cose, Berlusconi, che possibili foto che ci sono, cioè, ci crede a tutta questa storia? No, mi dica la verità, adesso non mi faccia berlusconiano. Allora, che a Berlusconi piacciono le donne, ci credo, certo, quello... lo sappiamo tutti, non è mica una novità, no? Che ogni volta che vede una bella donna si distrae. Ma lei a qualche festa c'è stato o no? No, feste a casa sua, del tipo... No, assolutamente no. Assolutamente. Però la sala del Bunga Bunga, che intanto viene descritta, è un bellissimo salone. L'ha vista pranzo. Lei? L'ha vista? Sì, certo. L'altra volta l'ha vista? Sì, sia il lunedì che il sabato prima, tutte le volte. Sì. Ormai è diventato una specie di obbligo, no? È lui stesso che scherza. Ah, come ha detto? La porta, venite giù, vi faccio vedere la sala del Bunga. No, dice, ecco, con un sorriso. Ecco, Pasini, che sta facendo? Volpe, che sta facendo? Non sentiamo più niente. No, ci sono. Ah, ecco, allora che ha fatto? Dice, vieni che ti faccio vedere la sala del Bunga Bunga. Ah, così ha detto, tutti. Vieni che ti faccio vedere la sala del Bunga Bunga. Ma c'è la piscina. È un salone, no? Da pranzo meraviglioso, con delle opere d'arte bellissime, con... è una stanza fantastica che chiunque vorrebbe avere a casa propria, purtroppo non ce l'ha. Perché ma è un uomo, c'è questa sorta di mezzo di piccolo palco di come si... piccolo palco, non è vero niente. Non c'è la storia là dove si balla la lap dance, il palo, il famoso palo. Nel piano c'è sotto, un palo o non c'è? Ma che palo? Non lo so, si è detto che c'è il palo. Ha detto, si è detto che sono state fatte anche dei disegni, addirittura dei plastici con questo palo in mezzo. Sì, adesso faranno appunto dei rendering. Vabbè, comunque Berlusconi le ha detto, vieni a vedere la sala del Bunga Bunga. Esatto. E lei è sceso giù, Che è successo? No, allora, prima di tutto, giù c'è l'auditorium. Sì. C'è un cinema. Sì. Ma c'è niente altro che un cinema dove si proiettavano pure i discorsi di Vendola, pare. Sì, c'è una piscina anche. Ma una piscina c'è anche, no? La piscina è fuori. Beh, no, c'è anche all'interno. No, quella interna è dall'altra parte, io non ho visto la piscina. Ah, non l'ho visto. La sala del Bunga Bunga, cosiddetta, è il salone da pranzo, con vicino un'altra stanza molto bella, anche questa con grandi opere d'arte, dove i suoi ospiti cenano e c'è la musica. E basta, è una cosa normale, perché lei non crede che poi a un certo punto alcuni se ne vanno e altri restano e Bunga Bunga, lei non ci crede a questa cosa. Resterà una ragazza ogni tanto, resterà la sua fidanzata, resterà qualcuno e farà quello che gli pare. Ridai con questa fidanzata, perché secondo lei è fidanzato, gliel'ha detto Berlusconi? Fidanzata si intende tutto, ogni ragazza che rimane a casa anche per mezz'ora è una fidanzata in quel momento. Ma no? Capito, beh, adesso Diego, signor Volpe, ma scusi. Sa come diceva la mia professoressa del ginnasio? Come diceva? Mi diceva Parenzo, pane e volpe la mattina, ecco, uguale, su. Traffico, traffico, traffico, il solito traffico, Parenzo. Adesso prendiamoci tutti una pausa per 4, 5, 6, 7 minuti perché ci sono i titoli della 7 che, come sappiamo benissimo, durano tantissimo. Via. Inizia con una sbandata il cammino parlamentare del federalismo, finisce pari nella commissione bicamerale 15-15, quindi non è approvato il primo decreto attuativo sul fisco municipale. PDL e Lega decidono un consiglio dei ministri straordinario che ripresenterà probabilmente il decreto. Bossi rassicura, per ora niente voto, andiamo avanti, ma tra i leghisti c'è inquietudine e torna il pressing sulla futura candidatura Tremonti. Fini mette il dito nella piaga, bocciatura senza precedenti, e Bersani dice sì al federalismo, ma solo dopo le dimissioni di Berlusconi. Ma la Camera dice no ai PM di Milano, la maggioranza ottiene 315 voti, non ha votato il premier e non dà il via libera alla perquisizione nell'ufficio milanese di Giuseppe Spinelli, il contabile di Berlusconi. Gli atti rinviati ai pubblici ministeri, le opposizioni raccolgono solo 298 voti, si astiene il Finiano Barbareschi. Foto ininfluente, parola di Bruti Liberati, procuratore di Milano ammette l'esistenza ma smonta così il giallo delle immagini allegate al fascicolo del caso Ruby sulle feste di Arcole. Lunedì i PM potrebbero formalizzare la richiesta di processo immediato. Chiedo perdono, dice il pentito Gaspare Spatuzza, il processo per la strage dei Georgofili. Alla fine del 93, dopo le bombe, in un bar a Roma, l'ex mafioso racconta di un incontro con Giuseppe Graviano, boss di Brancaccio, che gli disse: Berlusconi e Dell'Utri sono i nostri interlocutori. La battaglia delle strade del Cairo divampa da 24 ore, l'Egitto precipita ancora di più nel caos, carri armati contro la folla anti-Mubarak che assedia i palazzi e cecchini che sparano sui manifestanti. L'ONU decide di evacuare il proprio personale dal paese, straniero picchiato a morte. Eccoci qui, 20 e 19, ecco. Direttamente dal lettino del massaggiatore, anzi no, scusate, dalla 7 di Alba Parietti, buonasera. È vero anche che ero al lettino del massaggiatore, sono andata a farmi un massaggio, stremata. L'una e l'altra cosa, vedi? No, perché signor Parietti, l'ultima volta che ci siamo collegati, se lo ricordo bene, fu un collegamento. Ma che avete rischiato di fare il bis? Ah, perché fino a questo, fino a quando è stata sul lettino del massaggiatore? Un'oretta fa, quando mi dovevate, diciamo, teoricamente chiamare, ero di nuovo, voi penserete che non faccio altro, invece ne avevo fatto uno quella volta lì e ne ho rifatto uno stavolta. Ma era voi sempre, avete, diciamo, nuda quasi, barbaro, no? Per trovare i momenti miei di relax. No, ma noi abbiamo sì un istinto, sa, abbiamo un intuito, siamo un po' birichini da questo punto di vista, dunque insomma ci abbiamo preso anche stavolta, anche se se la chiamavo prima effettivamente si ripeteva una situazione molto simpatica. Ti ricordi, Parenzo, tu ogni volta fai l'errore, Parenzo, di parlare quando parla la signora Parietti, così non si sente nulla. No, sono allora, in collegamento anch'io. No. Lo so, ma tu non puoi parlare è quando... È stata l'emozione di immaginare la signora Parietti massaggiata su questo lettino, lei a Roma, io a Siena, questa distanza siderale. Vabbè, comunque da stasera conduce sulla 7D, sì. Alba all'oscuro, che è un bel titolo, devo dire. Davvero? Alba all'oscuro. Penso che io non ero convinta. No, ma non è male Alba all'oscuro, perché... Ma in effetti è così, cioè nel senso che io sono all'oscuro di tutto, come sai, è chiaro che lo dicerà. Come avete fatto a dare i nomi degli ospiti? Abbiamo registrato, cosa molto semplice, anche perché era molto a rischio il problema ospiti, perché c'era rischio, come poi è successo per esempio nel caso di Busi, che credo invece sarà la seconda puntata, sì, che l'ospite perdesse un attimino, diciamo, il controllo. Vabbè, ma quello e quindi magari era necessario poter tagliare, no? Eventualmente credo che nel caso di Busi qualche taglietto, qualche bip partirà sicuramente, ma devo dire stasera c'è una contrapposizione abbastanza chi c'è storica, stasera? Lele chi Mora c'è? E Vauro, quello che più di diverso c'è sulla piazza, insomma. Beh, però devo dire è strepitosa questa cosa qua, cioè Alba Parietti mette a confronto Lele Mora. Non a confronto, però in certi casi hanno le stesse domande. Prima intervisterò, credo, Lele, perché io vi posso dire una cosa? Sì. Io la trasmissione la vedrò esattamente come la vedete voi, cioè non solo non mi hanno detto gli ospiti e li ho saputi al momento in cui li intervistavo, non solo non sapevo le domande, ma non mi hanno mai fatto vedere nulla. No, però perché... scusi, non ho capito come non sapeva le domande. Ma lì è cosa, perché non lo sapevi? Non sapevo le domande, non sapevo l'ospite, nulla. Come faceva a sapere le domande e non sapere l'ospite? Scusa. Ah, è questo, Alba all'oscuro, e è certo, questo. Allora, io non so l'ospite, ma non per modo di dire, capito, perché tu devi sapere che Beni in casa, che è il mio capo progetto. Ma non c'è pure il signor Sabelli Fioretti, nostro amico, poi non so se è amico. Lo so, ma aspettate a dirlo, perché insomma, dopo io anche ero amica prima di fare questa trasmissione di Sabelli Fioretti, adesso un po' meno, soprattutto ho perso un sacco di amici. Cioè, ha litigato con Sabelli Fioretti? No, però allora adesso vi spiego il meccanismo, prima che vada in onda. Allora, io esco in un tunnel in contemporanea, in parallelo con un altro tunnel, tipo le vie che si incontrano. Sì. L'ospite sa chi sono io, ovviamente io non so mai chi è l'ospite, le indicazioni che mi vengono date sono assolutamente incomprensibili, per cui non sono mai riuscita, o quasi mai, tranne una volta, due volte, a indovinare un ospite. Me lo trovo davanti col rischio di non ricordarmi il nome, cosa che può capitare alle volte anche per una persona famosissima. Questo però è il format del programma, diciamo. Esatto, sì, però ti assicuro che l'attenzione che ti viene è enorme. Uno può anche dire di no, che non vuole. Lo so, però era divertente proprio il rischio. E poi questo ospite viene intervistato con una raggiera di domande che girano tipo ristorante giapponese, cinese, sai dove sei? Dove noi peschiamo le domande a caso, io pesco le domande a caso, le leggo in contemporanea col telespettatore, perché c'è una piccola telecamera che permetterà al telespettatore di vedere che razza di domanda è. Ti assicuro che ci sono domande agghiaccianti. Poi ce ne erano due in particolare. Ma scusi un attimo, signor Parietti, ma che stai facendo, Parenzo? Sei in bagno? Non ho capito. Ero un attimo in bagno. Non so se Parenzo, lei ma però veramente fa di tutto. Ma scusi un attimo, sta parlando la signora Parietti e tu vai in bagno e tiri anche lo sciacquone. Non è mancanza di rispetto. Ma come non è mancanza di rispetto? La signora Parietti sta spiegando un programma che tratta un format tutto particolare, che ha una sua originalità, e lei non mi sembra così convinta. Ha dato, diciamo, andando in bagno, l'espressione di quello che pensa di questo format. Ah, attenzione. Cioè, allora, signora Parietti dice il format che è anche del signor Sabelli Fioretti. Sabelli Fioretti veramente non ha fatto il format. Sabelli Fioretti ha fatto le domande, che ancora peggio. Che fanno schifo, allora, queste domande. No, però diciamo non sono proprio sempre, diciamo che fanno inorridire alle volte le femministe, alle volte l'ospite stesso, alle volte anche me. È una cosa pazzesca. Cioè, deve andare in onda questo programma e lei sta dicendo il format fa schifo. Le domande sono agghiaccianti. Non ho detto che il format fa schifo, ho detto che certe domande fanno orrore, perché io stessa mi sono trovata imbarazzata. Lei non mi segue abbastanza. No. Il format fa tutt'altro che schifo, è molto bello, ma è molto difficile. Lei l'avrebbe fatto un programma dove lei non sapeva chi era l'ospite, non sapeva cos'era le domande. Lo so, però uno lo sa prima queste cose qua, non è che lo so. Lo so, io rischio, me lo sono preso, ma io posso dire che secondo me il programma invece è molto carino. Ah, ecco, adesso vuole rimediare. No, non voglio rimediare, in onda tra mezz'ora, quindi lo vedrete tutti, non ho bisogno di rimediare, sarà sotto gli occhi di tutti, quindi non è che devo dare delle giustificazioni a una cosa che ancora non ho. No, ma assolutamente, per carità, noi stiamo scherzando, però lei mi era sembrata all'inizio abbastanza scettica, nel senso molto molto scettica su quello che poi è avvenuto concretamente nella registrazione. No, per niente, proprio capito. Allora ci siamo capiti male, benissimo. Però le domande di Sabelli su certi non ha capito una cosa. Sono scettica su certe sul motivo per cui questa trasmissione ovviamente è stata registrata, mi sembra evidente, perché ci sono delle domande, delle risposte che andavano poi controllate, perché la reazione dell'ospite chiaramente non è sempre uguale, no? No, certo. Vabbè, comunque alcune domande le ha trovate agghiaccianti. Comunque lo vedremo. È molto interessante perché comunque è un format nuovo, è originale. Parenzo, tu che sei sempre alla ricerca di format. Ma non ce l'ho Mi piace questa, voglio vedere la televisione, questa idea del ristorante giapponese, cioè le domande, mi pare molto molto suggestivo. Vedremo. Come non c'è niente di originale, signor Parietti? Certo che c'è di originale, o no? Ma voi capite tutto il contrario di quello che uno dice? Ah, no, lei ha detto originale, ma tutto dall'inizio dell'intervista, vi ho detto che ci sono molte non c'è solo questo di originale. Ah, ho detto non c'è, che c'è anche la scenografia. Beh, stasera siamo un po'. Forse lavorate troppo, ragazzi. Stasera, no, infatti. L'abbiamo un po' scettica. Abbiamo bisogno di un massaggio anche allora, noi. Allora, il programma è originale, la scenografia è fantastica, ha detto dello stesso Vittorio Sgarbi. Bene. L'idea, secondo me, è molto divertente e sicuramente una grandissima novità questo programma, perché in ogni caso una cosa così non si è mai vista veramente. E prima guardatelo, poi magari assolutamente giudicate. Assolutamente. Senta, io ho una domanda politica per la signora Parietti. Politica? Che domanda vuoi fare? Bunga. Che vuoi fare? Tu ancora su Bunga Bunga? È vecchia questa, la storia del Bunga Bunga è vecchissima. È come la storia delle mie tette, se ne parlerà per altri 20 anni. Appunto, insomma, la storia. No, ma me la faccia, sentiamo. Sì, avanti, Parenzo, fai questa domanda, su. No, la questione era proprio legata a questa cultura del Presidente del Consiglio, cioè lei come... Ma lei ha firmato, adesso sintetizo io perché bisogna andare alla borsa, l'appello per le donne, l'appello sulla dignità delle donne, lei l'ha firmato oppure non ha nessuna intenzione? Vedi che non è una domanda stupida? sì, l'ho firmato. Tra l'altro sono una delle pochissime che fa spettacolo, che l'ha firmato. Ma che è? Perché l'ha firmato? Signora Parietti, ma perché l'ha firmato? Perché dice, ma quale dignità queste ma donne? Che, no, ma se c'è una cosa che a voi uomini piace è il fatto che le donne abbiano poca dignità. No, lo so. Che c'entra? Ma no. No, che c'entra questo? No. Beh, però no, c'entra. È un appello contro Berlusconi, non è un appello per la dignità delle donne. No, non è un appello contro Berlusconi. E come non è un appello contro Berlusconi? È un appello per la dignità delle donne, perché non è solo Berlusconi che manca di rispetto alle donne. Perché Berlusconi manca di rispetto alle donne. Se fosse tutto lì il problema... Guardi, è molto peggio il berlusconismo che magari anche un po' in lei, no? No, ma alle volte, guardi, si è molto più berlusconisti di quanto uno sia. Io alle volte posso Secondo lei io sono berlusconiano e non lo so, sono molto più berlusconiano e non lo so, lei dice. Può capitare. Può capitare, sì, effettivamente può capitare. Allora, ripartiamo da qui, tanto il programma inizia alle 9, la fermiamo ancora per una decina di minuti circa, però abbiamo queste cose così, lei sa, dobbiamo incassare qualche denaro, la pubblicità e torniamo subito, perché no, mi ha incuriosito molto questa storia del programma, è una cosa fantastica, veramente. No? All'inizio l'ho sentita un po' scettica, poi invece non ci sbagliavamo. Parenzo, dobbiamo andarci a fare qualche massaggio anche noi, dobbiamo rilassarci prima della trasmissione, sennò arriva... Sono tesissimo. Arriviamo alle 8:30 e giustamente non capiamo niente. La signora Parietti ci ha detto: voi non avete capito nulla dall'inizio alla fine, perché noi pensavamo che lei fosse scettica, le domande facevano lo schifo, invece era tutt'altro. A dopo. Eccoci qui, 800 24 00 24, questa è la Zanzara su Radio 24, in collegamento dal Granducato di Toscana, da Siena, David Parenzo, in collegamento da casa sua, Alba Parietti. Buonasera. Che stasera sulla 7D, lo voglio ripetere perché ci sono delle interviste molto interessanti, conduce Alba all'oscuro, vedi che una pubblicità. Bravo. Le stiamo facendo una pubblicità strepitosa. Bravo. Strepitosa. Allora, David, sai quali sono le interviste che sta... Ho il testo dell'intervista all'Ele Mora. Ah, scoppierai di... Ma ce l'hai tu e non ce l'ha la Parietti, scusa, non ho capito. No, perché l'hanno diffusa dopo, naturalmente, l'ufficio stampa. È evidente, perché qualcuno ha anche detto come faceva lei a sapere alla conferenza stampa se non l'aveva ancora fatto. Perché... Ma com'è che non capisce mai Parenzo stasera? No, non so. È una cosa pazzesca. Cioè, l'Ele Mora, domanda, quando è l'ultima volta che ha fatto l'amore con una donna? Beh, bella questa domanda, però. Questa non è male, questa non l'ha fatta Sabelli Fioretti. No, non l'ha fatta Sabelli Fioretti. Ha fatto quella Sabelli. Che non ha fatto Sabelli Fioretti è Fioretti con la sua Emilio Fede, se ne era proprio dimenticato. Allora, 3 anni fa, sono 2 anni che non faccio sesso per motivi di salute. Beh, ma non raccontiamo tutto adesso. Vabbè, no, una frasetta, vabbè, ma che c'entra questo? Così stimoliamo le persone, no? È una petaise, una petaise. No, che cos'è, scusa? Una qualche domandina carina, tipo, non so, sei un magnaccio o cose di questo genere. Allora, però che... aspetta, mi faccia finire la risposta. Ho fatto delle cure, ho preso delle pillole che fanno calare il desiderio, erano delle pasticche per la depressione. Cioè, dunque scopriamo che l'Ele Mora non tromba da 2 anni. Lo dice lui, eh? Da 3 anni, lo dice lui, sì, insomma. Vabbè, poi il magnaccia, tu sei un magnaccia? No, ma non dica tutto, perché lei è come se stesse svelando il giallo. Noi in effetti diamo domande, diamo risposte, non ho capito, allora che dico, prima a me mi tengono lo scherzo di tutto, poi diffondiamo anche l'ufficio stampa. Non si capisce per quale qual è la... Vabbè, ma vai in onda stasera. Manca mezz'ora, anche meno, 20 minuti. Vabbè, ma noi stimoliamo gli ascoltatori, no? Collegatevi, sì, tutti con la 7D, adesso diciamolo, esatto. Collegatevi tutti con la 7D. Io sono già collegato. Le trasmissioni vengono replicate, l'Inter perde contro il Bari. No, adesso l'Inter, adesso, per carità, se qualcuno vuole vedere l'Inter può anche vedere l'Inter, però noi consigliamo di vedere Alba all'oscuro, perché ripeto, anche leggendo i testi di questa intervista è molto interessante, ci sono delle domande su Emilio Fede, per esempio tu, che è vero che Emilio Fede, intercedendo per un prestito che ha chiesto a Berlusconi, le avrebbe chiesto la percentuale? Beh, questa è una domanda, come dire, d'obbligo, no? D'obbligo a questo punto. Ma pensi che Sabelli se l'era completamente dimenticata? Ah, questa se l'era dimenticata, sì, Sabelli. L'ho fatta io, perché sennò... Ho capito, però è anche scontata, forse per questo se l'era dimenticata Sabelli. Vabbè, invece mi dai una bottarella e... È scontata, non so. Qual è la polemiche allora? Polemica tra Sabelli, Fioretti e Parietti, eh? Ma andate d'accordo oppure avete litigato? No, certo che andiamo d'accordo, però erano domande che io non avrei fatto. Dunque avete litigato. Dunque un po' avete litigato, diciamo la verità. No, zero. È mai praticamente venuto la registrazione, è difficile litigare. Altra polemica, attenzione. Come? Non è mai venuto la registrazione, addirittura? Mai. E un giorno ha fatto un'apparizione come la Madonna. Sì. Ma io mi hanno detto che era una mitomana, che in realtà non l'avevo visto. Ma se la tira un po', mi sa, eh? No, è che da quando fa questo giorno da pecora non ha tempo che peraltro di far questo. Si dedica solo a un giorno da pecora. Fa cosa? Un giorno da pecora, sai quella trasmissione che va su Radio 2? Quello dove c'era Scilipoti, è presente? Sì, quello che Scilipoti. No, era anche per noi. Però vabbè, comunque Scilipoti è andato da dato di matto lì dal giorno da pecora. Sì, vabbè, quella trasmissione. Sembra che non stiamo troppo simpatici ai signori di un giorno da pecora, così dicono. Ah, davvero? Sì, così mi hanno riferito voci esterne. Così. Vabbè, e me è così, ci sono sempre queste rivalità. Ma sì, no? Queste rivalità, come, ma in realtà noi non ce l'abbiamo. Dice che adesso non sia con Chiambretti e così via, voi fate insomma un programma, ma... diciamo, anche voi un po' satirico, no? Sì, ma noi non ce ne frega niente invece, no. Noi non ce ne frega assolutamente nulla. No. Cioè, vabbè, vuol dire che la prossima volta, se Sabelli è troppo impegnata, domande me le fate voi. Ma noi non ci tiriamo mai indietro, no? Giusto? No, senta, però, signor Parietti, io non mi capacito di una cosa. Lei, Alba Parietti, che firma una cosa che è chiaramente una cosa politica su Berlusconi. Che gliene frega a lei? La dignità delle donne è una cosa su cui si può firmare ogni giorno, ed è giusto, sì, principi generali. Io, proprio perché ho firmato ogni giorno, che mi permetto, a parte che lei ripete, continua a dire che è una cosa contro Berlusconi, come se Berlusconi... Ma come no? Fosse l'unico rappresentante della, diciamo, della misoginia italiana. Ma perché Berlusconi come le tratta le donne, secondo lei? Eh? Come le tratta? Che idea ha delle donne Berlusconi, secondo lei? Ma Berlusconi ha risolto il problema donne pagando, oppure voglio dire come fanno molto spesso gli uomini. Le donne non devono disturbare sostanzialmente. Questa è l'idea che ha Berlusconi delle donne? Sì. La sensazione è quella, no? Voglio dire, non, anche se poi occupano posti di potere, però insomma mi sembra che non ci sia una fortissima personalità nelle donne che ama lui, no? Ma non lo so, a me queste discussioni... Vabbè, ma guardi, Berlusconi è un problema relativo, io ripeto, Berlusconi non è il problema, il problema è proprio la diffusione di tutto ciò che è la dignità. Io guardi, ho firmato quella... Sì. Quella chiamiamola petizione, non saprei come chiamarla, non per Berlusconi, ma contro Berlusconi, ma io purtroppo comincio a essere veramente, come dire, a odiare parte della mia razza, perché quale sarebbe la sua razza? Siccome una razza che, come tutte le razze discriminate, ha subito nel corso degli anni, e abbiamo combattuto tutte nel corso degli anni per arrivare a fare dignitosamente il nostro lavoro, vedere mandare tutto in fumo, perché poi veniamo viste veramente molto male, ma non tanto la classe politica quanto noi che facciamo questo mestiere. Però mi scusi, se Parietti, che se fai questo mestiere o ti metti un paio di tacche sei per forza una però mi scusi, ma Parietti, non è che l'universo femminile sia rappresentato dalle persone che frequenta Berlusconi o che abitano in un certo posto? Guardi, mi faccio fatica guardando la televisione, non tanto quelle che frequenta Berlusconi, che è lei che nomina, non io, ma guardando la televisione, guardando chi c'era presente in Italia anche politicamente, guardando anche alte sfere, diciamo, a tutti i livelli, lei invece mi deve dire chi sono, quante sono le donne che hanno la possibilità di rappresentarci in modo, in proporzione rispetto agli uomini, in maniera dignitosa, che occupano posti di potere. E chi è che non è dignitoso? Chi è che non è dignitoso, per esempio? La signora Carfagna, faccia i nomi. No, guardi, io non faccio nomi perché non ce n'è bisogno. E perché non ce n'è bisogno? Ma perché lo sanno tutti, ma cosa dobbiamo ripetere? Cosa sanno tutti? Cose? Guardi, semplicemente chi lo fa con dignità e lo fa occupandosi di questo mestiere, facendolo in maniera seria, si vede, lo si sa. Cioè, voglio dire, la gavetta ha un peso, no? La signora Minetti, per esempio. Ma io non la conosco. Ma è normale che sia consigliere regionale in Lombardia? Secondo lei è normale? Secondo me no, però E allora neanche secondo me, evidentemente. Vabbè, magari anche perché non credo che lei ce l'abbia la signora Minetti. Diversa la ministra Gelmini. Non sia magari in grado di svolgere il suo mestiere, ma che è un lavoro che, come tutti i lavori, deve arrivare attraverso le capacità, attraverso la gavetta, attraverso la fatica, attraverso il fatto che i colleghi o le persone che lavorano in quel settore decidono che sia in grado di rivestire un ruolo e prenda uno stipendio così alto perché sta facendo dignitosamente bene un lavoro a favore dei cittadini. Però le voglio precisare che lo legga bene quali sono i presupposti, magari non l'ha fatto in maniera scrupolosa, che quell'appello che lei ha firmato è un appello contro Berlusconi, glielo voglio precisare e lo voglio confermare su questo. Non è che uno può dire sì, firmo un appello però in generale sulle donne, è un appello contro Berlusconi. Lo ripeto, quando ho firmato quell'appello l'ho firmato per un unico motivo, perché quell'appello per me rappresentava, per quello che c'era scritto, la rivendicazione delle donne di poter fare qualsiasi tipo di mestiere, compreso il mio, senza dover, oppure poter anche, questo in questo modo io l'ho interpretato, a me piace vestirmi in modo sensuale, mi piace presentarmi in modo sensuale e mi piace essere una persona seria e rispettosa e rispettata. Fare piacerebbe nel mio mestiere, non essere indicata come una mignotta ogni volta che spiego che faccio magari all'estero la televisione, ha capito? Molto semplice. Però mi scusi, ma che c'entra Berlusconi con tutto questo? No, appunto, cioè non è che... Però nell'appello si fa esplicito riferimento, cioè questo appello, contestualizziamolo, nasce, non a caso, nasce dopo la vicenda Rubi, dopo la vicenda delle intercettazioni, cioè, quindi questo è il contesto, perché di questi appelli ce ne sono stati, cioè, scusi, le ragazze che frequentano del mondo dello spettacolo, che frequentano case di Berlusconi secondo le intercettazioni, ma non solo secondo le intercettazioni, secondo lei che cosa sono? Perché se è nata anche questa discussione, sono escort mantenute, ragazza, ragazza. Ma perché lei mi vuole far parlare sia di Berlusconi che dare un giudizio morale su Berlusconi? No, però quell'appello è di Berlusconi, cioè è su Berlusconi, ha capito? Non è in generale sulle donne. Io non conosco queste ragazze, non le conosco, quindi non posso dare giudizi su queste ragazze. Conosco Berlusconi, ma quello che soprattutto non sopporto è che il mondo televisivo e il mondo politico e praticamente qualsiasi tipo di mondo viva e si nutra soprattutto su scambi e favori sessuali e su corruzione, da sempre. Punto. Da sempre, appunto. Da sempre, non è che sia, è una cosa, certo, è una cosa all'epoca di Craxi o all'epoca di altri politici o quando c'era la Democrazia Cristiana, piuttosto che, cioè, è stato diverso perché forse non era così spudorata la situazione, ma c'era, non glielo posso garantire. È diverso perché Craxi non le candidava, ad esempio. Ma candidarle come direbbe una barzelletta, proprio no, ma gli dava un bel sacco di altri ruoli, voglio dire, no? Però c'è anche da dire una cosa, che a me sembra una cosa ineliminabile questa qui, è come il potere, non si può eliminare il potere, non si può eliminare il sesso. No, invece io non sono d'accordo con lei, perché quando tutto farà talmente schifo che non funzionerà più, perché tra... mi scusi, le caculo, prostitute e gente che non ha assolutamente attitudine per essere... Sì. Ci si troverà in una società che non è più in grado di andare avanti, perché la gente non ha meriti e quindi non sa fare i lavori che fa. Guardi, per esempio, Mora, lei come lo definisce, il signor Mora? Come l'ha incontrato? Ma guardi l'intervista. No, la guardo, appunto. No, però l'intervista è una cosa, quello che pensa lei è un'altra cosa. Lele Mora è la rappresentazione di probabilmente di quello che è stato per tanti anni il mondo della televisione. Cioè un magnaccia, un papone come sospettano i magistrati. Lui si è mosso tra l'altro benissimo. Ma è un papone come sospettano i magistrati? Ma senta, io faccio le interviste, non do le risposte. Lo so, ma... Che idea si è fatta? Che idea si è fatta? Che sia lei, come... che idea si è fatta invece? Io, secondo me, Lele Mora fa un mestiere che fa un sacco di gente. Fa l'intermediario nel mondo dello spettacolo, allora, come dire. Io la penso esattamente come lei. Ma è una cosa disdicevole? No, perché? No. I magistrati pensano che sia uno che ha indotto la prostituzione, cioè, diciamo, parliamoci chiaro, insomma, questo è... Ma questo lo vedranno i magistrati, io non faccio il magistrato. No, appunto, no, però uno si fa un'idea, no, su queste... Su ma queste... se la sarà fatta anche lei, me la farò leggendo poi le carte. Però, voglio... farmi... No, certo, per carità, ma sto dicendo semplicemente che siccome l'appello che lei ha firmato fa parte, all'interno di quell'appello ci sono tutte queste cose qui, non si può sfuggire a... Che cosa? Cioè, c'è l'idea che Berlusconi sia uno che utilizza le donne in un certo modo, grazie anche ai suoi amici, Lele Mora, Emilio Fede, cioè è questa la cosa, cioè, che nasce... Io non mi ricordo di aver letto Lele Mora e Emilio Fede nell'appello. Ma no, non c'è nell'appello, certamente, però nasce da questa intercettazione, da questa inchiesta, questo appello, cioè non è che uno... Ma mi scusi, io capisco che lei non sia una donna, e capisco che sia molto più facile per voi parlare, eccetera, eccetera. Ma se voi vi mettete per un attimo, cercate, capisco che mi sforzate un pochettino, voglio dire, non vi dico di fare i travestiti. Sforziamoci. Però sforzatevi di mettervi un attimo al posto di una donna. Ma per me le donne non è che sono tutte uguali. E vi garantisco che non è tanto facile sopravvivere in questo mondo. Io credo di aver fatto, posso dire una cosa? Io parlo per me. Io credo di aver fatto una carriera che vale 10 carriere. 10, ma nessuno la mette in dubbio. La mia carriera vale per 10, perché guardi, io per compiacere qualcuno non ho fatto manco una cena. Quindi io credo da, come dire, dunque lei ha una cena lì ad Arcole, non sarebbe da mai andata anni dicendo quello che penso, avendo la mia dignità, prendendo delle posizioni, certo ed essendo una persona su cui nessuno può dire una parola, perché lei può leggere mille miliardi di carte da 30 anni a questa parte, non leggerà mai il mio nome legato a un'inchiesta o qualcosa di sgradevole, alla corruzione, a non aver pagato le tasse, a aver fatto delle cose che, diciamo, offendo la dignità di qualcuno, non aver rispettato la libertà degli altri e così via. Quindi quello che fanno gli altri, ripeto, sono problemi loro, che su cui, se ci sono dei giudizi morali, saranno giudizi morali. Allora, voglio concludere in questo modo, invitando sempre i telespettatori a non vedere la partita che inizierà tra poco. Certo, ma chi se ne frega della partita? Chi se ne frega, l'Inter, il Bari. Ma poi l'Inter Bari non è che... Ma per carità, invece sulla 7D inizia Alba all'oscuro con una strepitosa intervista all'Ele Mora, e non solo all'Ele Mora, e a Vauro a seguire, che però è anche su Anno Zero stasera, per cui alla fine c'è anche Anno Zero. No, Anno Zero è un conflitto di interesse, capito? Conflitto di interesse per una pazzesco volta tanto. Allora, mi fa piacere perché sa che siamo nati lo stesso giorno io e Santoro. No, lo stesso giorno, non lo, non lo stesso anno, facciamo, però. No, però ci facciamo ogni anno gli auguri. Che giorno è? Ma non avete lo stesso carattere, però. Ma non avete lo stesso carattere. Guardi, per certi versi abbiamo abbastanza lo stesso carattere. Sì, provi, sì, a dire, provi a dire, signora Pariti, è vero, può cominciare. Anno Zero può cominciare. Alba lo scudo può cominciare. Posso dire che al di là di qualsiasi giudizio si possa dare su Santoro, e lo trovo il più bravo giornalista che c'è in Italia. No, è uno strepitoso conduttore televisivo. È un strepitoso conduttore televisivo. Strepitoso, anzi, io direi non strepitoso. Non si fa scappare una palla neanche. Se gli dai una palla, se fai l'errore di passargliela, ti fa gol di sicuro. Come ha fatto a Masi, l'ha massacrato. È inevitabile. Io credo che anche Masi, se ne sia reso conto, sarebbe sbagliato. È stato un massacro proprio pazzesco. Cioè, anzi, un suicidio di Masi, direi, no, signora Parietti, o no? Beh, insomma, in questo caso ha alimentato anche la trasmissione Anno Zero, quindi ha fatto bene il suo lavoro di direttore generale. Beh, certo, ha aumentato gli ascolti. Un'ultimissima cosa, aveva ragione allora la signora Santanchè, che è tutto dire, quando disse che Berlusconi vede le donne solo orizzontali? Beh, l'ha detto la Santanchè, che ora è la sua più grande consigliera, alleata, quindi evidentemente è anche quella che lo conosce meglio. Bene, grazie. Grazie, buonasera. Grazie. La 7D per la centesima volta, lo ripetiamo, dovrà pagarci qualche cosa. Alba all'oscuro. E anche però voi a me, è tutto un giro. È tutto un giro, sempre. Mandatemi almeno una copia del Sole 24 Ore per tutto l'anno gratis. Beh, ma noi il Sole 24 Ore è una cosa, questa Radio 24 è un'altra. Niente, non ha niente che vedere. No, allora ha a che vedere, come no? Ha che avete qualcosa? È un'isola diversa, come lei vuole. Felice, ma il telefono è lo stesso, però. Il telefono di che? Dove uno vi chiama. Ah sì, certo, è lo stesso. Allora condividete le linee telefoniche. Condividiamo un sacco di altre cose, guardi, un sacco di proprietà, ognuno un sacco di altre. Condivide ciò che gli esatto, giusto che gli condivida. Vado a vedermi il programma, vi dispiace? No, vada pure, no. Perché andate anche voi, però. Noi do alle 9 saremo. Altri 10 minuti ce li dia, che c'è chi ne qualcosa, poi dopo. No, avete tempo, dovete andare a casa della televisione. Ma che facciamo? Chiudiamo un quarto d'ora prima la trasmissione. Beh, sì, ma che ve ne frega? Ma che ce ne frega? No, però ha ragione. Sì, vabbè, ma qualcuno mettete musica. Qualche ascoltatore c'è ancora, ci faccia parlare Parenzo. Facciamo parlare Parenzo, infatti sta qui. Grazie, buona serata. Ciao, traffico. Siamo qui, ma è successa una cosa incredibile, caro Parenzo. Che è successo? Cioè, praticamente, mentre in commissione, come sai, il federalismo è stato sostanzialmente bocciato per il risultato di parità, e qualche ora dopo è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sul federalismo. E dunque Bossi dice, ok, definitiva decreto comuni, la Lega mantiene le promesse, portata a casa il risultato concreto. Cioè, quello che è successo in commissione non vale nulla, e il Consiglio dei Ministri ha approvato sostanzialmente la stessa cosa. Siamo i pazzi. No, ma siamo i pazzi non tanto per quello che è accaduto. È per il sistema. È un sistema di ridicolo, cioè è una cosa assurda, cioè che non ha senso. Adesso naturalmente c'è l'opposizione che parla di gravissimo atto di rottura del Consiglio dei Ministri, che approva un decreto bocciato dal Parlamento, un atto di rottura ingiustificabile, eccetera, eccetera. Beh, è un sistema ridicolo, Ma perché uno si chiede, ma allora a cosa è servito il voto in commissione? A cosa serve il lavoro in commissione? Perché è tutto da rivedere. È tutto finito. Volpe Pasini? Ah, c'è ancora? Questo, vedi? Sì. Il buon Parenzo dovrebbe saperlo, perché lo sa, il voto era consultivo. La commissione per il federalismo non è una commissione parlamentare. No, è vero, il voto era consultivo, sì. Consultivo. Tra l'altro, il regolamento prevede che nel caso in cui il voto non sia espresso, come in questo caso, perché non è stato approvato, non compromette, non inibisce il governo ad andare avanti nel decreto. Per cui il governo ha rispettato in maniera perfetta quella che è la, diciamo così, identità formativa di questa commissione bicamerale. La commissione non ha bocciato il federalismo in quanto tale, è stata una posizione politica dell'opposizione allargata a Flick, che ha votato contro per cercare i mezzi di passare le ruote. Vabbè, c'erano anche delle cose concrete sul coso, Però c'è il problema adesso, questo è il problema, che qual è il decreto, qual è il testo che il governo ha approvato? perché teoricamente poteva approvare solamente il decreto precedente. Basta con queste procedure antiche del nostro Parlamento. Cruciani, sai qual è il problema? Il problema è che quando ci sono queste situazioni, in un paese normale si va a votare. Il punto non è nemmeno questo. Il punto è che anche con un governo nuovo, legittimato, ci sarebbero comunque questi problemi, questi bizantinismi assurdi che non dipendono né da un governo di centro-sinistra né da un governo di centro-destra. Il paese è bloccato, e infatti quello che diceva. Ma è bloccato anche per queste cose qui, perché ci sono questi bizantinismi assurdi. Principalmente per queste cose. Perché nel sistema italiano, con la Costituzione che si può cambiare solamente con i due terzi dei parlamentari oppure con un referendum. La Costituzione nel suo cuore fondamentale, nella forma di governo, non cambierà mai. Va bene, Marco da Padova, la città di Parenzo. Marco, buonasera, dica. Buonasera. Sì. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera, dottor Parenzo. Ciao, Padovano. Da Padova e qui Padova si vive malissimo. Pronto? Sì, allora? Marco. Un intervento rapidissimo. Ieri mi rilassavo a quanto diceva ieri Vittorio Sgarbi diceva Berlusconi dice che non ha fatto sesso con Rubi dice che non ha fatto sesso con Berlusconi, quindi il caso è chiuso. A mio avviso quello che ci interessa sapere è anche il perché poi queste signorine vanno a finire, che ne so, per esempio al Consiglio regionale lombardo. Vabbè, questo non è una roba che riguarda la magistratura, mi scusi Marco, è una questione politica, però sull'argomento prostituzione minorile ha perfettamente ragione Vittorio Sgarbi. Cioè, se Berlusconi dice che non c'è stato, Rubi dice che non c'è stato nessun contatto, nessuna cosa sessuale, uno può trovare tutte le intercettazioni che vuole, ma come può provare che c'è stato un rapporto sessuale di qualsivoglia tipo tra Rubi e Berlusconi? No, scusatemi. Diciamo che io voglio sapere questa cosa da Parenzo, perché è veramente incredibile. Cioè, Parenzo, il codice non dice questo. Ma che significa il codice? Il reato si consuma anche allorquando la parte cosiddetta lesa, Rubi, sei con peggio è di minorenne, e in anche se è consenziente. Ma che c'entra? Non ho detto questo, ho detto semplicemente come si fa a provare. Questo è una cosa. Ma io quello sto dicendo, come questo si fa? Lo spiegheranno i giudici. No, ma dimmi come si fa a provare. Ho capito, ma dimmi. Ma come si fa a provare? No, spiegamelo. Come si fa a provare? Evidentemente mettendo insieme, diciamo così, le intercettazioni. Ma come fa le intercettazioni si può dire qualsiasi cosa? Io posso dire sono andato con uno, sono andato con l'altro, invece non è vero. Uno ti dice anche posizionamento della cella, sapendo ma che c'entra la cella? È chiaro che è stata lì la signora Rubi Rubacuori, no? È un problema, sarà un problema. Ma perché non vuoi ammettere che è indimostrabile? Perché non vuoi ammettere che è indimostrabile? Ma certo che può essere che sia indimostrabile. Ma è indimostrabile in natura una cosa di questo tipo, a meno che non hai, non so, un testimone che ti dice sì, ho visto quello che la toccava, ma loro, se loro negano, come si può dimostrare? Io non riesco a capire, magari sono ignorante. Che l'unico modo potrebbe essere che se è vero che c'erano più persone dentro questa famosa sala e se è confermato che lei è minorenne e altre tre persone dicono sì, siamo andate tutte col premier, questa potrebbe essere fonte di prova, dopodiché non lo so, non me ne frega nulla. È una cosa assurda. Le due persone negano, un altro dice sì, ho visto Berlusconi che toccava quello, condannato per prostituzione minorile. Ma è una cosa. Non sappiamo neanche se sarà rinviato a giudizio. Volpe Pasini, mi aiuti lei, Volpe. Parenzo, Davide, Monica Lewinsky. Ma che c'entra? Monica Lewinsky, mica era minorenne. La madre mise nel freezer gli spermatozoi di Clinton e così potete dimostrare che c'era stato qualche cosa. Questa è la verità. Cioè, vabbè, un attimo solo, prima di Giulio della Scuola di Piceno, ma non possiamo fare più nessun ascoltatore questa sera. 30 secondi con Massimo Cacciari sul federalismo. Buonasera, professor Cacciari. Sì, federali. Ero al telefono con Cattaneo poco fa, ho parlato con lui un paio di minuti fa. È stato bocciato o no? L'hanno rifatto in Consiglio dei Ministri? Certo che è stato bocciato il federalismo, ma che domanda è? Ma è evidente, il Consiglio dei Ministri è una cosa, il Parlamento è un'altra, la Commissione è un'altra. Perché non capisce mai niente? Bene questo federalismo della Lega o no? Ma questo non è un papocchio, ma il federalismo è quello che abbiamo discusso con Cattaneo ancora questo anni Cattaneo fa. Cioè, sì, ma è una cosa superata questa. Ma che superata, il federalismo è un'idea di Spinelli, Altiero, però non Barbara, ne abbiamo discusso a lungo, sono 30 anni che parlo di federalismo. Vabbè, devo chiudere, professor Cacciari, devo chiudere, mi dispiace. Il telefono poi chiude, vai sempre ad andare a parte. A domani. Telefono e poi chiude, allora cosa mi telefona a fare? Domani 18:30. Domani.